cioè quello che ha fatto Mussolini praticamente. Mussolini ha fatto un omicidio plurimo colposo nel corso del suo ventennio. Va bene, abbiamo finito di parlare. Buonasera. No, per cui, perché, avvocato? No, ma perché avvocato Sinatra? Scusi, perché? Ho superato l'età per gli scherzi cretini e di cattivo gusto. Mi faccia parlare. Lo faccio stare zitto. Non si permetta mai più di chiamarmi. Lo faccio stare zitto. Lo faccio stare zitto. Ma qua, non so. Pronto, ma io che c'entro? Ma io che c'entro, avvocato? La zanzara. Tutto il resto è gioia. Va bene, abbiamo finito di parlare. No, non ho detto gioia. Lo faccio stare zitto. Ma qua, non so. Ma io che c'entro? Ma io che c'entro, avvocato? Crocifiggilo, crocifiggilo, disse loro Pilato. Prendetelo voi e crocifiggilo. Io non trovo in lui nessuna colpa. Prendetelo voi e crocifiggilo. Prendetemi per pazzo, sì, pazzo per Gesù. Il MES esiste dal 2012, non è stato approvato la scorsa notte, come falsamente e irresponsabilmente è stato dichiarato da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Questo governo non lavora col favore delle tenebre. Vorrei dire ai politici che hanno sempre tagliato i finanziamenti alla sanità, alla ricerca e alla cultura, adesso di non chiamarli eroi quelli che sono morti, perché li fate rivoltare nelle tombe. Non chiamateli eroi perché li avete uccisi, li avete uccisi. Avete distrutto voi gli ospedali, tutte le nostre eccellenze, tutto quello che avevamo. Noi possiamo essere il paese più grande del mondo, siamo gli ultimi stronzi della terra. Ma non chiamate eroi quella povera gente che è morta perché non aveva una mascherina e non aveva un paio di guanti per colpa delle vostre finanziarie di merda. Oh, perché da bene e bevete? Signore, ha un virus che non pare quel noto. Cosa? Sogno pensionato. Ma la stessa lì pensano a mezzo. Al nostro mangio, cuscino, mette vietto. Ma che mi interessa un virus? Ma non rispondere così, non si capisce un cazzo. Prendi il microfono allora, fatti dare, dai. In Italia abbiamo anche Neanderthal meno tipici, come il cosiddetto uomo di Altamura, rinvenuto più di 20 anni fa in un sistema carsico scoperto nel 1993 vicino appunto Altamura, in Puglia. Professore? Ecco, ma non è professore, è un coglione, non è un professore. Ci sei, professore? Certo, io sono un super coglione, Cruciani! Senti qua, ora vi dico questo. Gli ebrei hanno rovinato il mondo per andare a rubare. Sono pieni di miliardi. Loro comandano il mondo, gli ebrei. Comandano tutto con i loro miliardi. Io non sono fascista. Chiama Matteo! Voglio la libertà per andare alla banca e alla posta. Beh ragazzi, dal bunker di via Monterosa, sempre più assediati qui in questo maledetto luogo, chiamasi Lombardia, caro Parenzo, siamo vivi però, vivi e vegeti, pronti per una nuova avventura. Applausi al sottoscritto, applausi. In collegamento dal bunker costruito dal Mossad, come al solito, quartiere Prati, il numero civico non ve lo possiamo dare, altrimenti il Mossad fatto a costruire un bunker con esattamente la via e il numero civico, sarebbe stato inutile. David Parenzo, anche lui vivo. Buonasera, buonasera cari amici, buonasera. Ogni spero giorno, che ogni giorno facciamo una Pasqua e Pasquetta. Ogni buonasera. Giorno facciamo una telefonata surreale in cui a un certo punto mi dice: però effettivamente tu la vivi diversamente, ma li mortacci tua, ti dico anche, li mortacci tua. Sì, tu sei sì, in un bunker a casa tua. Ti chiamo tutti i giorni perché ti sento molto... molto preoccupato, ti sento che stai lì in casa tutto il giorno. No, no, sono preoccupato perché a quale questa mostro invitare. Ti no, vedo no, proprio... no, sono preoccupato dal fatto che qualcuno, ma prima o poi le responsabilità verranno fuori, ha trasformato questa regione in una sorta di lazzaretto. Ha trasformato questa regione che una volta, Ma dillo senza paura, dillo senza paura. Anche volta. Se abiti lì, se hai fatto parte della task force, task della propaganda salviniana, lo dici? Puoi ormai dire perché lo dicono tutti. Ho parlato detto. Oggi con l'associazione A Buon Diritto di Luigi Manconi. Ancora. Ti proteggiamo noi. Ti proteggiamo noi con i nostri avvocati qualificatissimi. Solo dal virus. Qualificatissimi. Ho bisogno di essere protetto. Comunque, detto questo, il virus prima, delle poi, fake news. Prima o poi uscirà fuori chi ha trasformato, la sì, responsabilità ecco, di appunto. Chi ha trasformato appunto. Questa regione che una volta era il miraggio d'Italia, la gente voleva venire qui a vivere, a lavorare, efficienza, servizi e eccetera. E invece in quale regione? Porca in Campania puttana. Ad esempio, in quale regione invece non ci sono medici che si sono ammalati in una grande ospedale iniziamo, di eccellenza? Iniziamo in quale zitto, regione? Iniziamo non lo dice, con Briatore. Iniziamo con Briatore, ragazzi, iniziamo perché subito con Briatore. Ma perché non posso iniziare con Briatore adesso? Non posso, o vuoi che inizio a parlare dei danni? No, poi se vuoi inizio a parlarti dei danni, aspetta. Stai zitto un attimo. Gruppo, no, inizi a parlare dei danni della masturbazione no. a casa. Ti posso ecco, iniziare no, a parlare Briatore. Dei danni no, della masturbazione scusami, ho a casa. Briatore, partiamo da Briatore. È un Briatore, tema che affronteremo Briatore, dopo, te lo dico subito, affronteremo no. dopo. Ci sono molte persone che sono danneggiate quotidianamente dall'eccessiva masturbazione a casa. Gente in solitaria, gente che era si masturba comunque. Vedi? Amico mio, così la realtà. L'affronteremo più tardi questo tema, naturalmente, che ha a che fare con la salute di tutti noi, con la salute dei maschi, ma anche delle femmine, anche se per le femmine i pericoli sono inferiori. Briatore. Allora, in questi due giorni di vacanza. Che è successo? Pensavo. Vacanza. Io ho una cosa che non capisco questa. Vacanza. Ancora oggi non abbiamo le mascherine. Perché ancora oggi noi non abbiamo fatto i tamponi? Ma siamo sicuri che ci dicono la verità? Siamo sicuri che i morti che dichiarano sono quelli o magari sono quasi il doppio di questi? Ma siamo sicuri che ci raccontano un sacco di balle? Cioè la cosa incredibile è che altri paesi che hanno iniziato dopo di noi già hanno già le date di riapertura, presidenti della Repubblica che parlano una sola volta, non è che ogni settimana ci rompono i coglioni, che parlano chiaro, danno delle date, eppure hanno iniziato dopo di noi. Capito? Hanno iniziato dopo di noi. Certo, una cosa pazzesca. Questo è il tema, certo. Una cosa incredibile. E poi abbiamo naturalmente le cose che avvengono in televisione. Ora dico perché queste critiche. Sì, certo, la Guardia di Finanza dovrà spiegare perché le telecamere della signora D'Urso erano su un elicottero della Guardia di Finanza che dal costo di migliaia e migliaia di euro che in quel momento in una specie di film, no, di film sul Vietnam degli anni 70, Apocalypse Now, planava su un signore solitario in spiaggia. Cioè noi abbiamo speso, io sono uno per la linea dura, lo sapete, però amici miei non è che si possono spendere 50.000 euro di carburante per andare a planare su un signore da solo in spiaggia, esatto, in solitudine esatto. in spiaggia, diciamo la verità, c'è una sproporzione esatto. tra queste due cose. Poi ognuno fa il suo mestiere, la televisione, se la Guardia meno di Finanza male. Ospita una telecamera sopra un elicottero, va benissimo, qual è il problema? Tutti attaccano la D'Urso quando in realtà la Guardia di Finanza dovrebbe dire no scusi signora D'Urso, adesso non è che possiamo mettere la telecamera adesso nella situazione del Covid a caccia di runner solitario, di passeggiatori solitari in spiaggia. Ma dai, ma... Siamo sull'elicottero della Guardia di Finanza che è proprio lì a fare cosa? A controllare. Ecco, Barbara. Allora, Barbara. L'elicottero ha segnalato quella persona cosa? Sulla spiaggia. Oh, mamma. Ma lui ha aumentato il passo e sta scappando. Come ha aumentato il quindi il passo? Quindi ora lo stiamo inseguendo. Non ma so se si ma... può vedere, i finanzieri hanno iniziato a perché lui si sta allontanando tra le case. Ma cosa allontanando? Vedi Barbara? Ma che cos'è, il nemico pubblico? Sì, lo sto vedendo. Andrea inquadra e giù ci sono altri poliziotti che stanno bloccando altre persone. Ma cos'è la caccia al ladro? Cosa vuole? Hai presente il film Nemico Pubblico con Gene Hackman, straordinario? Okay. E nemico, senti gli elicotteri, senti gli elicotteri, senti gli elicotteri, gli elicotteri di Barbara, gli elicotteri di Barbara. Il profumo del piombo, il profumo del piombo. Ma lo devi dire però, queste cose le devi denunciare. Ma cosa devo denunciare? Ma cosa devo denunciare? Devi queste cose qui le devi far sentire, le devi denunciare. Ma l'ho appena fatto. Ma sei incredibile. Ma lo devi, non puoi, non fa, fai sentire quegli elicotteri, quella cronaca ansiogena. Ecco, lo stiamo catturando. Senti, lo devi far sentire. La gente deve sapere. Ecco, ma cosa però deve sapere? Cosa deve sapere? Deve sapere l'unica che cosa, stanno quanto inseguendo costa un povero runner. Quello ho detto. No, non è un runner, è un passeggiatore. Ma un passeggiatore costa? Ma ditelo però. Ma l'ho mamma detto mia. Mi sento solo ormai a denunziare questo. Quanto costa far planare, far volare sì, un elicottero dalla Guardia di Finanza e, per mandarlo in giro con una telecamera a bordo a caccia di quattro sfigati che vanno in spiaggia? Magari quello abitava là. Beh, forse, cos'è sto? Forse però la telecamera forse no, no, però l'elicottero forse sarebbe come volato. Posso andare in onda comunque, tutta la serata quello con l'elicottero? Voglio andare in onda tutta sentilo, la serata sentilo, sentilo, con sentilo, i rumori dell'elicottero. Sentilo, sentilo. Però posso dirti la verità, David. Uno dice i due opposti di un programma, no? Barbara D'Urso. E dall'altra parte che ci può essere? Ci può essere, che ne so, la Gruber. Oppure ci può essere, che ne so, per esempio Agora, certo. Agora. Agora. Ti faccio ottimo, sentire ottimo. Agora. Aspetta, ti faccio sentire Agora. Hanno fatto la stessa cosa. Più no, o meno. No, no, no, come no? È la stessa cosa. Ma hanno fatto no, la stessa quello cosa. È un grande racconto. No, no, no, ma che stessa hanno cosa? Ho visto fatto tutto. La praticamente racconto la stessa no, cosa. Stessa cosa. No, ma quell'elicottero volava sarebbe volato comunque. Beh, non lo so adesso i dettagli, però senti. Funzionario di polizia locale, c'è una persona qui sulla sinistra. È poco più avanti, sta attraversando un cancelletto, sta correndo. Calzoncini azzurri, magliettina verde, con cappellino bianco, sta scappando, sta correndo. Sulla sinistra. Si fermi, cialdrone! C'è una persona che sta correndo, sta scappando letteralmente nel parco e l'operatore della polizia municipale lo sta raggiungendo di corsa. È stato raggiunto. Con la cavalcata delle Valchirie, dai. Dai, su. Con la cavalcata delle Valchirie hanno messo, dai. Era diverso, era un drone, non so che cazzo fosse. Ma è la stessa cosa, la caccia all'uomo, il racconto della caccia all'uomo. Che differenza c'è? Grande quello racconto, dai, grande racconto bellissimo della realtà. Finalmente, dai. Senti che bello, che fa ascolto e funziona. Tutti questi virologi in televisione, noioso, dai. Il tampone c'è, il tampone non c'è. Sì, dai, effettivamente. Basta. E il vaccino lo cercano, non lo cercano. Senti che bello il racconto, naturalmente, della paura, naturalmente. Tutti rischiano di essere denunziati. Senti che bello, che meraviglia, in diretta, naturalmente. Questo è la realtà. Denaro pubblico speso dai, bene, le dice lei. Dai, pieno di aerei e di droni della RAI che vanno a caccia di persone, anche anziani, vecchietti che stanno andando magari all'ospedale per una visita, naturalmente, vengono inseguiti e strabazzano dal suolo perché impauriti dall'accerchiamento della polizia, naturalmente, dei NAS o dei ROS, naturalmente. Io impiegherei televisivamente i ROS, che sono molto più efficienti, scenografici, sì, naturalmente, sì, no, sì. Efficienti, dai, che se ne frega, naturalmente, è la scena, i ROS con il loro equipaggiamento, naturalmente, le pistole, i caschi, i passamontagna, e lui dice efficienti, ma dai, qui è la televisione, dai, fa ascolti, efficienti, efficienti, non ci interessa niente, efficienti, e funziona, non funziona, e dai. Siete collegati con il canale 897 sul decoder satellitare di Sky. Basta che non metta un'altra pizza. Oh. Ed è notizia fresca, battuta da tutti gli organi di stampa. Il cavalier Secci è stato tratto in arresto da personale delle forze dell'ordine intento ad entrare all'interno di un mercato rionale della città metropolitana di Cagliari, sprovvisto di apposite misure di sicurezza, in particolar modo sprovvisto di mascherina. Ha provato a definirsi diplomatico sottoposto a diritto internazionale, ha provato ad aggrapparsi a un regolamento OMS sulla grandezza molecolare del virus, ma tutto questo è stato invano. Il cavalier Secci è stato condotto nelle patrie galere. Ora vai, Corrado, ed insegna ai nostri detenuti i principi fondamentali della Costituzione. Ciao, cavaliere. Calma, vogliamo ricordare quello che è successo. Uno degli ultimi personaggi intervistati qui in questa disgraziata trasmissione, Corrado Secci, già pregiudicato, dobbiamo dire, ecco, 42 anni, cagliaritano, che si proclamava davanti ai carabinieri, davanti alla polizia municipale, un soggetto di diritto internazionale, con la solita scusa, eccetera, per non farsi multare. Minacciava pure i sottoscritti, cioè Giuseppe Cruciani, David Parenzo, anche se noi ce ne fottiamo perché per fortuna siamo uno a Milano, uno a Roma, e quello difficilmente, sì, tanto chi se ne frega, da Cagliari non si muove dall'isola, e quindi chi, beh, se ne, insomma, frega, chi se ne frega, sai, è un tipino leggermente, sì, violento, no, sicuramente non è cresciuto Secci. Non è cresciuto all'ENA, la grande scuola, no, l'ENA non è cresciuto all'ENA, che cos'è l'ENA? È la grande scuola superiore, sì, quella di Macron non è cresciuto alla scuola di Macron. Senti che diceva. Senti. Questa è una cosa, la voglio dire, una parentesi che non c'entra niente. Pensate a quei due cazzo di giornalisti di ieri che stavano facendo pubblicità, che hanno detto che sono a favore del capitalismo. Cos'era? Era grave impiccare. Sarete i primi due che venga a cercare appena sistemo le teste, no, di cazzo. Qui dopo venga a cercare a voi. Non è simpatica la situazione, però. Ho detto, non hai sentito questo. Oggettivamente non è simpatica. Questo qua sentito, è un, no, signore. Un signore che è stato anche. Adesso si trova, pare, nelle patrie galere per stalking, oltre che per, bene, varie cose del passato, e che dice che ci vuole impiccare. Cioè, appena finita la storia, viene ad impiccarci. Adesso. Non è un atteggiamento liberale. Io faccio una, no, piccola segnalazione, cioè una piccolissima, sì, segnalazione. Sì, sì. Più di una bisogna farla, sì. Dopodiché succede anche che la polizia, ma succede, non è la prima volta, commette degli errori. Per esempio, è un caso un po' comico, dei poliziotti, probabilmente in una chat privata, hanno fatto circolare questo video che oggi è diventato un po' virale dappertutto. Molti di voi ce l'hanno sul telefonino, già inutile che fate i cazzoni. Molti di voi l'hanno ricevuto sul cellulare. È un video in cui un poliziotto, che cosa fa? Fa una multa a un signore che dichiara che è uscito per andare a scopare con una. 533 euro. Sentite cosa dice il poliziotto. Purtroppo ci sono nomi e cognomi. Nomi e cognomi di chi gli ha affittato la macchina, che poveraccio pensava di essere, che non c'entra nulla, che non c'entra nulla. E poi nome e cognome ripreso col telefonino da colleghi poliziotti che magari l'avevano fatto circolare in una chat interna. Però la roba è diventata virale. Ormai sappiamo il nome di chi ha affittato la macchina, che poveraccio dice si è dovuto scusare con la moglie, non so con chi, ha dovuto giustificare davanti a tutti. Non sono io che sono andato con una ragazza a scopare con una ragazza. E anche il nome di quello che è stato beccato, che non è che, comunque, a parte il fatto che è stato multato, non è che aveva, no? Cioè, non doveva essere sottoposto a questa specie di gogna nazionale. Dubbio. Non c'è dubbio. Dove sta facendo Gianluca? Guarda qua. Dov'è? Allora, sono andato a consumare un rapporto sessuale in corso Grosseto da una mia amica. Quanto gli è costato? 533 euro. Neanche un escort gli costa. Cioè, il poliziotto dice manco un escort. Ragazzi, dai, su, ma di che parliamo? Di cosa parliamo? Sgarbi continua, siamo sotto la dittatura della scienza. Sotto la dittatura. La sua battaglia. Ha un po' ripreso ieri sera da Porro, senti. È una cosa tragica, perché scopriremo che siamo stati sotto un dominio, una dittatura, e tuttora lo siamo, di una scienza che non è scienza, è una posizione. Polegato si incazza, diceva, mi arrivano le bollette, bastardi, le bollette al ristorante. Adesso lascia perdere che è un fascista, che ha detto anche che chi è un evasore è un patriota. Però è un po', beh, il sentimento comune di una serie di imprenditori, di persone, di ristoratori, che magari si arrivano ad arrivare... Ma imprenditori, no, adesso... Beh, senti. Non lo chiamerei imprenditore. Partite, Ivano, 600 euro. Arrivano le bollette che scadono il 2 di aprile, arrivano il 6 e scadono il 2. 600, 500, 600, 450. Queste sono le bollette. Partite IVA che abbiamo pagato sempre tasse di più di tutti. Stiamo mantenendo questo sistema corrotto, mafioso, massonico. Sono tutti bastardi, tutti, tutti che mi mettono in galera. A parte che 600 euro, come dici te, non li vogliamo neanche più, perché cosa vuoi? Telefoni all'Inps, non risponde nessuno, è saltato tutto il sistema. Prima che ci diano 600 euro andrà a dicembre, forse per il panettone. Guarda qua, e io penso come me, sono successi a tutti. Sono dei pezzi di merda, ladri! Ladri! Ladri, noi veniamo a prendervi. Quelli della grigliata di Palermo. Caro Davide, quelli della grigliata di Palermo. Adesso io, per carità, ho su Messina non vuoi dire niente invece, Messina, sul tuo amico sindaco. No, ma mio amico sindaco, che ha fatto adesso? Il tuo amico sindaco Cattelo De Luca, che dopo aver insultato il ministro dell'interno, che ha fatto Cattelo? Aver violato alcune norme, girava con la mascherina. La procura di Messina ha aperto un fascicolo perché hanno fatto a Messina un funerale del fratello dell'ex boss mafioso. C'erano 40-30 persone che sono andate a dare l'ultimo saluto al fratello dell'ex boss e quello non ha detto un cazzo, niente. 40 persone, 30 persone non della è che famiglia puoi impedire che la gente esca da casa e è vietato. Ma lo è vietato, so, ho capito dalla legge. Ma dove sei, Cateno? Dove eri? Adesso, dove ma non è che può essere eri, sindaco di Messina, che sei sempre pronto lì col ditino a bloccare le navi che sbarcano sulla tua cioè, isola? Essere... Dove sei? Ma non può quando essere 50 familiari non può essere del fratello dell'ex boss mafioso. Vabbè, sei incredibile, guarda. Non è che può essere uno e trino. Pur di difendere. Pur di difenderlo, può pur essere di uno difenderlo. E trino, uno e trino, uno e trino. Decine di persone dietro al carro funebre che trasportava allora, la salma di Rosario allora, Sparaccio, ma, che è il fratello dell'ex ma hanno boss fatto mafioso, male, hanno fatto malissimo. E lui zitto, muto, Cateno De Luca, muto, no, muto, muto, ha condannato. Muto, muto. E tossisce pure, tossisce. E lui niente, e tossisce, sì, e perché m'arrabbia. Pietro tu da Taranto, niente, dai, non Pietro dici da Taranto. Niente, silenzio, iniziamo, iniziamo. Sta zitto. Il silenzio colpevole. Iniziamo, io sono incazzato con la Lombardia. Il silenzio e la codarda rassegnazione. Dimmi. Pronto? Dimmi. Buonasera, volevo fare un appello all'intellettuale. E non si sente bene. Ma io sento benissimo, Pietro. Ah, mi scusi. Allora, volevo fare un appello alla onestà intellettuale di Parenzo. Sì, dimmi. Buonasera, direttore, prego. È anche simpatico. Allora? Grazie, direttore. Ma con quale... prego. Niente, ma con quale coraggio continua per statuto a difendere il presidente Conte, il quale si preoccupa di offendere tutti i politici a destra e a sinistra? Io sono un commerciante. No, ma non l'ho difeso, però. No, nell'ultima sua conferenza. No, l'ultimo giorno. Non mi ha ho mai espresso un parere sull'attacco alle opposizioni che ha fatto l'altro giorno. Ho detto che ha sbagliato lì nel merito. Per me invece ha fatto sbagliato. Bene perché l'hanno attaccato a destra e manca quella risposta. Lui doveva semplicemente illustrare frega, il decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri, solo quello. Ma chi se ne poi avrebbe poi rispondere alle fake news di quegli altri due, benissimo, ma ha altri strumenti per farlo. Vabbè, ovviamente. Pietro, allora? D'accordo. In ogni caso, non sarebbe stato più opportuno che egli si preoccupasse di comunicare ciò che devono ricevere i lavoratori dipendenti, i commercianti come me. Pietro, però, nei fatti non è accaduto niente. Posso dirti una cosa? Sì, va bene, adesso vedremo se i soldi arriveranno o non arriveranno, una polemica ormai che va avanti da 10 giorni. Se c'è un grande ritardo non c'è dubbio, però ti posso dire una cosa. Conte ha attaccato Salvini e Meloni quando quelli lo attaccano ogni giorno, fa parte del gioco, alla fine che cazzo ce ne frega. Franco da Torino, dai, ancora questa cosa che lì doveva comunicare quello, quell'altro. Beh, no, però lì ha colto l'occasione per attaccare quei due che ogni giorno gli danno del traditore. Basta, sì, ma lo puoi fare in un'intervista alla Repubblica, ma queste sono cose, ma sono cose vostre da giornalisti. Franco da Torino, no, queste differenze sono cose Franco, sono strumenti ma che il Franco. Potere ha in mano. Franchino, dimmi. Franchi, senti, ciao, dimmi. Vai. Volevo solo dire una cosa, cioè io ho tre aziende con circa 80 dipendenti, non riesco a far arrivare un cazzo di niente a nessuno, le casse integrazioni non partono, i 600 euro arrivano... Questo è gravissimo, questo è grave, molto grave. E questo mi sono rotto i coglioni, perché sinceramente, guarda, non ce la faccio più, non riesco a dar da mangiare a queste persone. Certo. A fine anno chiudo la ditta, a fine anno, fra due mesi chiudo le ditte, 70 persone... E che fai? 200... Che cazzo ne so, non lo so, guarda. Che fai, che ti inventi? non lo so. Vai a Troia, so, a Cuba, che fai? Cioè, bravo, come Cuba. Cuba. Ma che, che ti devo dire? Ho capito, prendi quello che c'hai, eccetera, prendi baracca e burattini, ecco, e te ne vai, ecco, a bel suggerimento. Quanti anni hai? Quanti anni hai, Franchi? 52 anni, sono 52. Sono vecchio ormai. Beh, oddio, vecchio, adesso io ce n'ho 53, che cazzo di vecchio dici? 52. 52, prendi per un periodo, un anno te ne vai a puttane a Cuba, che ne so. Ecco il suggerimento. Ma sì, ma che devi fare a un certo punto? Oh la la la la la la, oh la la la la la la, oh la la la la la la. Ehi, sono io, 50 Cent. Pezzo a te! It's making me ill. You got no friends in your home. You got no family stone. You can't go. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. And one in them time. Sandy, Cru, Scotto, Cru, Chiacchio. Come cazzo ti chiami tu? Comunque io ti chiamo Cru Schiazzo. Comunque, Cru Schiazzo, senti, ma ieri a Messina, l'altro ieri a Messina, c'è stato un funerale di un boss della mafia e ci stavano tanta gente a questo funerale. Dove stava Catino De Luca? Dove stava? Non si è ingazzato questa volta? Non ha fatto il ducetto? Non è più... Che dice il tuo eroe Catino De Luca? Pezzo di merda, tu Catino De Luca e quel tuo capitano di merda Salvini, hai capito? Scazzo, come cazzo ti chiami tu? Minchia signori, che figura di merda ha fatto Catino De Luca a Messina col funerale del fratello dell'ex boss. Sguinzagliate Parenzo adesso, sguinzagliatelo. Attacca questi morti di fama, hanno rotto i coglioni. David, cosa vogliamo dire al ducetto di Messina? Hai visto? Quando ci sono gli sbarchi alla Caronte, lui è il primo lì ad andare a difendere il patrio suolo come un ducetto buddace, buddace. E poi? Funerale del fratello del boss? Neanche una parola, neanche un intervento, neanche lo straccio di una volante della polizia municipale. Siamo al top. Ducetto Buddace, un Catino De Luca. Sì, io vedo molto negativo. Mago Ruggero, salvami tu. Mago Ruggero, salva tu, dammi una speranza, dammi uno spiraglio di libertà, dacci uno spiraglio. È oggi così. È circolata pure una mezza bozza, pare fake, della Regione Lombardia, in cui si dice che gli spostamenti tra regioni dalla Lombardia fino ai primi di ottobre non se ne parla. Pensate, i primi di ottobre. Ma figurati. Ma io vi metto tutti al muro, altro che al muro, al muro, al muro. Ma figurati un cazzo. Cioè, pare che sia fake, figurati. Anzi è fake questa roba, però. Eh beh, certo. E dai. Ragazzi, vogliamo risentire quelli della grigliata del balcone di Palermo? Risentiamoli, dai. Poi un silenzio assordante su Messina, cari ascoltatori. Ma un silenzio assordante. Ma quale silenzio assordante? Ma che cazzo dici? Un silenzio assordante, quello di che urla. È un silenzio che urla, perché il vostro silenzio urla al tuo amichetto Catino De Luca. Non hai coraggio di chiamarlo adesso, Ma cosa devo chiamare? Ma non è che posso chiamare De Luca ogni giorno. Non è che posso ogni giorno chiamare De Luca, dai. Cioè, poi comunque a te queste cose qui piacciono, la realtà. Ti piace la realtà? La realtà ti piace, dai. Dice che sapete come un barbecue. Amo quanto mi ami. Dillo a tutto il mondo. Tutta la vita. Tu quanto mi ami, quando lo ama. Ah, tu hai lo ama, via. Signori, auguro virus, che hanno parlato con il noto. E mano dall'altro. Isa rimano. Oh, pigliate la birra e bevete. Ehi, contro il virus. Questa è la vitamina contro il virus. Non c'è vero. Vai, vai. A me o Venus mi passa con il noto dopo un anno che cominciò, sino a quando finisce. Sogno pensionato, amo la 60 di pensiero a mezzo, addosso, mangio, cucino, mette vietto, ma chi mi interessa non Venus, ma chi mi interessa, prima o poi finirà. Il bello è che questo qua, che si chiama Spagnolo, non so, oggi è stato intervistato da qualche parte, ha detto: ma io non capisco perché la gente se la piglia con me, cioè sono pensionato, guadagno 1600 euro al mese, ho organizzato sta grigliata, ma l'immortacci tua, voglio ma dire. Ma come perché? L'immortacci tua, voglio dire, l'immortacci tua, la grigliata sul terrazzo, grigliata, alla faccia con un mischione di gente. Poi, per carità, il problema, sappiamo, dell'Italia non è quello, il problema dell'Italia è la Lombardia, no, però... diciamolo subito, i numeri della Lombardia, perché che per il resto non dico che stiamo bene, ma insomma non stiamo messi. Non è che a Roma fanno le grigliate nei giardini condominiali, sicuramente, però le faranno, scusami. Dopodiché la caccia all'uomo è sbagliata, però amico mio non puoi, che puoi rompere il cazzo a tutta l'Italia, fatti sto cazzo di grigliata senza dire a me un virus, ma attraverso un virus ma l'immortacci tua perché c'è gente che sta crepando in quel momento, che quando tu dici quelle frasi un virus, ma fammi risentire questa cosa, io sono mio pensionato 1600 euro, questa qua sono pensionato, oggi ha pure detto beh ma che male facciamo. Ripeto, l'immortacci tua, c'è gente che sta crepando negli ospedali o e in tu casa, davanti alle se vuoi case, essere, certo. Cioè non è sbagliato essere contenti, io voglio dire a questo signore qua, io lo abbraccio, no, non è sbagliato, se uno si vuole divertire non è che possiamo impedire la felicità, dobbiamo essere tutti tristi eccetera, depressi eccetera, questo è sbagliato anche questo, no, il ma hanno fatto un una cosa che non andava fatto, sì, un assembramento sui tetti, bene, punto questo, qua uno a casa può anche d'accordo. Divertirsi, sta a però, casa con la moglie, si andando, diverte, ma già chi sei, va bene, andando nell'intimo di questa persona, la contentezza, la felicità di stare lì non può essere castrata, io su questo sono d'accordo, poi deve essere repressa, ma la felicità personale non la voglio castrare, anch'io avrei voglia. Vabbè, ma come fa uno a essere felice? Ma se uno è felice di fare la grigliata, anche uno, ma come fa uno a essere felice? Questo no, ma non lo comunichi, non lo comunichi urbi e torbi con un cazzo di filmato, maledetto. A me o Venus mi passa con il noto dopo un anno che cominciò, sino a quando finisce. Sogno pensionato, amo la 60 di pensiero a mezzo, addosso, mangio, cucino, mette vietto, ma chi mi interessa non Venus, ma chi mi interessa, prima o poi finirà. Dice: io arrostisco le cose, cucino. Questo secondo griglio, me è eccetera. Il papà del grillino palermitano, ha lo stesso stile, è il papà, sì, molto simile, è il padre del grillino palermitano. Sarei disposto a scommetterci, guarda, che quello lì che si lamenta contro NCC, okay, vorrei da voi una top 10, una top 3, top 4, fate come cazzo volete, il podio sostanzialmente allargato del weekend appena trascorso. Primo c'è la grigliata, eccetera. Poi ci sono anche Che cosa c'è? La corsa clandestina dell'ex, del fratello, sì, dell'ex boss. La corsa clandestina, è... la corsa clandestina dei Rom. Dei Rom a Sora, amico mio, dei tuoi amici Rom a Sora, sì, hanno fatto la corsa, beh, clandestina di cavalli. Una corsa, beh, tu sei fatto amico dei Rom, cavalli, notoriamente sei amico dei Rom. Adesso. Ragazzi, queste sono. La realtà è questa: sei amico dei signori non Rom. È che non è che ho incontri come Davide dire, da Torino, vai. Davide da Torino. Davide. Anche la polizia, però, nella top 3, con quella cazzata che hanno fatto di dare nomi e cognomi di quello che è stato pizzicato perché andava a scopare con una, sbagliando pure perché hanno messo pure il proprietario, cioè il noleggiatore della macchina. Dimmi Davide, Ciao Giuseppe, ma quanto vogliamo andare avanti così? Un altro mese, amico mio. Guarda, io sono uno, lo sai come sono stato a favore di questo lockdown, però il problema, fine maggio ragazzi, fine il problema, maggio, metà maggio, il problema sai qual è? Per di morire di coronavirus e morire di pane. Sì, no, ma questo è un discorso, c'è anche un altro discorso che poi dipende dalle regioni, molte regioni, guarda il Veneto ragazzi, cioè... stanno da Dio, diciamo la verità, stanno quasi da Dio. Beh, adesso non dico da Dio, no. Beh, Dio no. Sì, io in Veneto se io trasmettessi questo cazzo di emissione radiofonica, questa disgraziata trasmissione radiofonica dal Veneto, oggi avrei un altro spirito, sarei più contento, per carità, poi sto qua e mi diverto. Ti sentiresti forse più tranquillo, non c'è un certo, fuori dubbio. Questa fuori è la realtà, come diresti te, la realtà. Dimmi, dai, dimmi. Ma a mio parere è una follia continuare a stare chiusi, cioè avevamo già rischiato la recessione normalmente, cioè adesso con questo lockdown hai visto le stime oggi del Fondo Monetario Internazionale, Un altro mese chiuso, falliamo tutti. Sì, ma al di là di queste cose che fallivo, sicuramente questo c'è il signor Barisoni che ne parla ogni giorno. C'è il signor Barisoni che ne parla ogni giorno di queste cose qua. Di fallire. Per carità, va benissimo tutto. Io parlo di un'altra cosa, io parlo di questa prigione che si è creata, di questa prigione. Tu sei a Torino, che cazzo te ne frega? Non sei in prigione, qui siamo in prigione. Anche in Piemonte. Per carità, anche in Piemonte, è vero, anche in Piemonte. Ma che senso ha che uno non può neanche scendere a farci una passeggiata? Perché? Amico mio, perché per adesso ci hanno detto che questa cosa qui avrebbe creato una situazione virtuosa, cioè, hanno trasformato il resto d'Italia, è successo, esattamente. Cioè il lockdown è servito alle altre parti d'Italia a che non si allargasse il contagio, questo è fuori di dubbio, eh. Però Davide, la situazione è questa, la situazione è che purtroppo qui in Lombardia stiamo assistendo ad una situazione drammatica oggi con numeri leggeri. Certo, ma il problema è che sarà ancora più drammatica dopo. Simone, provincia di Milano. Davide, ti abbraccio. Simone, provincia di Milano, vai. Ciao a tutti e auguri di buona Pasqua appena auguri passata. Auguri un cazzo, ma che cazzo ce frega a noi? Ma che cazzo ce ne frega, giusto? Sapete qual è il vero virus che sta colpendo questo paese? È il virus dei padroni. La colpa di questi morti è la Confindustria, che la Confindustria ordina e lo Stato esegue. Stai dicendo che la Confindustria sono degli assassini, questo stai dicendo, Simone. Stai dicendo che sono degli assassini. No, devi avere il coraggio. Ma che c'entra? I padroni devono guadagnare. Fallo parlare, che qui siamo aperti. I padroni ordinano e lo Stato esegue. Cioè, tu stai dicendo che sono aziende non strategiche aperte perché i padroni hanno potere politico. Ma quali? Ci sono, fidati che ci sono. Si chiama capitalismo. E la cura è il socialismo. Ma tu come mangi? In Cina hanno chiuso tutto e hanno sconfitto il virus. Questo è il socialismo. Ma tu come mangi? Le cose da mangiare le compri al supermercato? Ma al supermercato le compri? I soldini li usi? Chi te li dà i soldini a te per comprare le cosucce? La ricchezza la producono i lavoratori. Ma tu, chi te li prende i soldini? Fermo un attimo. Voglio capire una cosa da Simone, però. Tu, a parte queste cazzate del socialismo, tu stai dicendo sostanzialmente. Cagate addosso, che c'è Capanna che viene a prendere le fabbriche qua. Ma che Capanna era un trotskista. Fermo. Anche se io faccio tutto una fascia, perché dal MES è arrivato già dal vecchio sistema, se per essere adesso al MES. Ma non rispondere così, non si capisce un cazzo. Prendi il microfono, allora fatti dare, dai. Quante firme avete già raggiunto? Guarda, di preciso non lo so, però parecchie, perché non siamo stati a contarle perché c'era tanta gente e le abbiamo messe via. No, ma ho firmato lì, mi hanno fatto firmare lì, però mi hanno fatto mettere il nome che c'è sopra lì. Ma ha messo una firma, sa perché cosa l'ha messa? Io ho messo la mia firma, il nome e cognome, però loro non mi hanno mica detto che cosa bisogna votare, cosa... Per cosa avete firmato? Per il... Sto lontano dallo stress, fumo un po' e dopo gioco a MES. Pato Mexes, Messi Valdes, fumo un po' e dopo gioco a MES. Accendo e dico oh yes, fumo un po' e dopo gioco a MES. Se mi riprendo oh yes, fumo un po' e dopo gioco a MES. Perché cosa sta MES? Perché cosa sta MES? Un acronimo il MES. Sì, lo so, era per... Per la protesta di tutto. Il mannitolo o polvere di mannite, citata dal demone scimmia, non è altro che un lassativo per neonati, lo vendono in farmacia e lo usano per tagliare la cocaina. Per questo quando una persona pippa la coca gli viene voglia di andare a cagare. Shoot them dead! Caspita, a parte il fatto che io le presenze le ho viste anni fa, quando avevo preso forti allucinogeni, mescalina, non ricordo cosa, e ho visto proprio delle presenze. E poi comunque quando sono lì che mi trastullo, sento proprio una presenza ed è come se me la scopassi, capite? Quindi sì, non è come avere la carne, però c'è una sorta di rapporto sessuale comunque. Però ecco sì, sono in astinenza, fattutamente sì. Ciao ragazzi, Longoni mi ha detto che quando c'è lui riesco a chiamare. Ragazzi, questa è l'Italia, vi faccio sentire il medico, anzi no, il medico, il sindaco, è anche medico in realtà, il sindaco di Melito, Napoli, cintura di Napoli, Melito, Melito. Qualche giorno fa, credo, prima di Pasqua, la vigilia di Pasqua, la vigilia di Pasqua. Si chiama Amente, Amente. Amente. Vai. Che se qualche commerciante, scusate il mio accaloramento, ma in questo momento purtroppo è difficile stare calmi, perché poi io sapete che mangazzo, e poi si mangazzo le cose purtroppo non vanno più bene. Una cosa che voglio chiarire perfettamente e in modo precisamente bene, sono spostato o per motivi lavorativi o per motivi di lavoro. Capito, sì. Ma è medico questo? Mi pare che sia anche medico, sembra. Vabbè. Ma dimostro con una dovuta certificazione, deve riempire un modulo. Con tutte le generalità del padre. Poi senti, questa è la più bella, è questa, devo dire la verità. Questa è la più bella. Medico. Salute, è un caloroso abbraccio virtuale ai nostri defunti. L'abbraccio virtuale ai nostri defunti. L'abbraccio virtuale. Che io, se fossi virtuale, i parenti di un defunto, gli darei una testata in testa. Questo, una, sì, testata, senza in dubbio, testata in testa. No, ma non è coinvolto nella lotta contro il Covid-19, questo scienziato. Beh, vero? Non voglio rassicurare. Ecco, no, appunto. Meno male che fa il sindaco e non più il medico. Aspetta, questo voglio aspetta, dire. C'è un parere da medico, aspetta. Però. Un parere da medico. Aspettiamo, sì, va bene. Parere su questo virus da medico. Purtroppo è un maledetto virus. È maledetto, molto, è un virus molto molto pericoloso. Ma ha studiato all'università del Divino Hotel, ma questo qui Marina, provincia di Vicenza. Intanto fra poco, se prendiamo la linea, sarà, ma non c'è più il marxista lì, il trotskista, quello che ha detto che Capanna è un trotskista, è finito quello lì. Dov'è? C'è Marina dalla provincia di Vicenza. Marina, provincia di Vicenza. Intanto fra poco chiamiamo, se ci risponde Adriano Panzironi, che oggi è stato sospeso. No, non fai un buon servizio. Questa è la radio della libertà. È stato sospeso per 6 mesi. È un personaggio che fa l'attualità di questo paese, dunque noi lo chiamiamo. Sì, ma è un personaggio. E io sono anche contrario a questo provvedimento. È un personaggio bieco. No, personaggio bieco. Marina, no, dimmi, no, Marina, dimmi. Vabbè. Luciano, io ho un problema grave, perché vivo a 1000 metri e bisogna fare il costo. Gli spacciatori qui non arrivano e io sono senza canne. Devo ascoltare la Zanzara senza Gottardo, con quel perbenista, Lionziano, Panatliano, non so neanche come definirlo, di Parenzo. Borghese aspetta un attimo, che milanta un socialismo, arricchito, arricchito no, signora, no, tutto no, bene, ma arricchito no. Voglio capire una cosa, Marina. Io tornerei un po' snob, tornerei all'origine. Arricchito no, arricchito, lei vorrebbe avere, se mi dice arricchito, lei vorrebbe avere un Gottardo. Lei vorrebbe avere un po' di Non confondiamo il cioccolato con la merda, per favore. Lei vorrebbe avere un po' di coso, vorrebbe avere un po' di erba pura, cioè vorrebbe avere la possibilità di comprare erba, marijuana, hashish, cose di questo tipo. Uno parla e sa di cosa parla e lei mi lanta, è a posto. Comunque torniamo all'erba, che è più importante. Cioè, appunto, dico, ma voglio dire, l'erba, sì. Tu stai protestando perché sostanzialmente non riesci a comprare degli spacciatori l'erba, quella. No, ma chi che si avventura a fare 40 tornanti? No, sono 12 di costo, che ci sono tutti i posti di blocco, capisci? Ma dove per stai? Avere due canne d'erba genuina, qua c'è da morire. Ma si fumi il rosmarino, ma si fumi il rosmarino. Ma no, ho provato anche a cercare il cumo, io guardi, le dico, ma perché cos'è qui il cumo? È stagione cos'è di cumo, io conosco però solo non funziona. Ma cos'è il cumo? La cosa? Il cumo è un'erba particolare, sì, sì, un'erba, per fare radice, zuppe e risotto, eccezionale. Sì, sì, il cumo. Però che non ha che effetto anti-ansia, capisci? Io sono un'ansiogena, quindi. Ma non ho capito, tu sostanzialmente hai bisogno di erba, di marijuana, di hashish per placare la tua ansia, o semplicemente perché te vada a fumare? No, perché anche mi calma l'ansia. A me non piace usare diazepam con le schifezze là e dare soldi alle multinazionali farmaceutiche. Sì, è un momento di crisi. Sì. Sto pensando anche a tutti quelli che vivono di questo lavoro e che si ritrovano in difficoltà a sdoganare tutte da sola, queste lei? Cose. Vive da solo o ha un fidanzato? No, sono sposata. Poveretto quel e marito. Anche tuo marito. Poveretto, poveretto mio marito. No, capito, anche tuo marito si fa le canne. Tua moglie che gli ha fatto fare le poveretto pulizie di lì. Pasqua incinta, direi, per tradizione poveretto, ebraica. Poveretto, sì, no, ma le ho fatte anch'io. Del cazzo. No, no, le ho fatte anch'io a casa le pulizie. Ah, non ha mandato il video, ci ha mandato un video dove aveva il pollo lì. Ciao, tesoro mio. Ciao, tesoro mio. Ciao, Marina. Ciao. Cercherò di rimediare a questa cosa. Adesso con le mie conoscenze, provincia di Vicenza, qualche cosa si può fare. Ciao. Allora, abbiamo con noi Adriano Panzironi. Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, cosa è successo non oggi? Non posso dire altrettanto. Ma smetti, no, qui solo, c'è un fatto. Al di là delle polemiche generali su Panzironi, c'è un fatto fondamentale. Adesso non stiamo qui a fare la Panzironi story. Quello che è successo prima, quello che non è successo. Ognuno ha le sue idee su Panzironi, ognuno ha le sue opinioni. Il punto fondamentale è questo. Che c'è un signore che trasmette su alcuni canali locali, a diffusione nazionale, giusto Panzironi? Più o meno. Sì, canali locali, anche canali nazionali, canale 61, che è la 125. Esatto. Per sei mesi. Sì, per sei mesi tutti conoscono Panzironi, è uno che ha diciamo inventato una sua linea di prodotti alimentari 120 eccetera, cioè com'è che si chiama esattamente 120 Life se non sbaglio, no? È lo stile di vita Life 120, Life 120 che prevede, esatto, chiaramente un'alimentazione, integrazione attiva. Allora è una persona che ha fatto anche molti soldi, per adesso legittimamente. Beh, questo... nessuno gliel'ha contestato, cioè non è che sono andati lì e gli hanno sequestrato il denaro illecito, no, li ha fatti illecitamente perché la gente compra i suoi prodotti, dunque per adesso diciamo a parte perché alcuni la gente compra sogni, questo è il tema. Vabbè, ma stai la tranquillo, gente compra la cosa fondamentale di oggi è un'altra, che hanno chiuso, fermato, oscurato, diciamo, no, questi canali per sei mesi. L'AGCOM, giusto? L'AGCOM, sì. L'Agenzia hanno, per la comunicazione. Hanno, l'Agenzia sì. della comunicazione. Molto di più, è un ergastolo mediatico, perché questa sospensione di sei mesi è la prima, dopodiché se le emittenti continuano a mettermi in onda c'è addirittura la revoca dell'autorizzazione dei canali televisivi. Certo. Allora, la ragazzi, della concessione, però scusate, cioè, della concessione, sì, scusate, certo, un attimo, posso dirvi una cosa? Allora, la cosa, il provvedimento è stato preso perché Panzironi avrebbe diffuso idee potenzialmente suscettibili di porre in pericolo la salute degli utenti. Per il Covid, perché? Certo. Perché se uno dovesse seguire quello che ha detto Panzironi, la gente può, diciamo, utilizzare misure, può pensare, non può accadere, può essere indotta a pensare che per curarti dal Covid basta comprare quei cazzi di prodotti di questo signore Panzironi qua. Come fine. Ti difendi questa cosa, da questo attacco anche sintesi di Parenzo? Come ti attacca? Mi dispiace che Parenzo non ha visto la puntata in questione, perché io nella puntata parlavo l'ho semplicemente visto, che è importante integrare vitamina C e vitamina D, ma non è che lo dico io mi rifaccio ricerche scientifiche pubblicate di tutto il mondo, banale, perché ultimamente ne sono uscite diverse, compreso una tre giorni fa sulla vitamina chiunque D, sulla dice vitamina che la vitamina C ci serve. Il problema è che qui si fa passare il concetto che la prevenzione non si può fare, ma si deve contrastare questo virus semplicemente utilizzando quei metodi che seppur giusti, che è quello del distanziamento, di lavarsi le mani. Però tu dici che sono metodi vecchi, però tu dici che sono metodi. Io dico che sono giusti, ma non si può fare solo questo, tanto più che io ho parlato di metodi medievali, perché lo stesso Pregliasco ha un programma della Sette ha detto esattamente la stessa cosa. Cioè tu dici i metodi utilizzati fino adesso sono medievali, quelli utilizzati fino adesso? Quelli del distanziamento sociale, di lavare le mani, sì, ma questo non lo dico io, lo dico tutti i virologi, tutte le trasmissioni. E tu dici, e tu hai detto Panzironi che per aspetta dirci che dobbiamo prendere la vitamina C a prescindere dal coronavirus. È la vitamina D, aspetta. È la vitamina D o prendere il sole? O prendere il sole, no, che ci fa bene prendere il sole? Stiamo parlando di uno stile di vita corretto, quindi ridurre la quantità di carboidrati. Ma ci vuole Panzironi per aspetta, sapere ma purtroppo ci vuole Panzironi perché non lo dice nessuno, perché ogni volta gli articoli della vitamina D e vitamina C ti dicono che esempio la vitamina C è una fake news, invece non è vero, perché ci sono sperimentazioni all'Università di Palermo, sperimentazioni in allora, però posso dire una cosa, manco medico. Aspetta, ma non sei manco medico. Io sono un informatore scientifico, lo suo collega Parenzo. Ma non sei neanche, no, non sei manco giornalista anche professionista te. Non sei manco giornalista professionista. Sei un giornalista pubblicista che deve essere sospeso dall'ordine dei giornalisti. Fermi tutti, ragazzi, fermo un attimo. Allora, la questione qui non è nemmeno, cioè non è nemmeno questa. La questione è un'altra. Beh, anche. No, la questione non è questa. Panzironi dice serve la vitamina C, correggimi Panzironi, sì. la vitamina D per integrare il nostro corpo, farlo funzionare meglio. In questo modo si può prevenire anche il COVID, giusto? No, non prevenire il COVID, prevenire la prognosi infausta, ma questo l'ha detto stesso Montagnier. D'accordo, che è un premio, però no? Scusami, altro, fammi finire, questa qua è una tua opinione, no, supportata, dici tu dici supportata, io sto venendo verso di te, cioè supportata da alcuni studi, eccetera, eccetera. Perché proibire, perché impedire che questa informazione circoli, che questa opinione, circoli? Scusa, allora a questo punto, aspetta, no, fermo un attimo, fammi finire. Allora a questo punto chiudiamo tutti i canali internet che non sono gestiti dall'Istituto Superiore di Sanità, che non sono gestiti direttamente dal Ministero della Sanità, chiudiamo Giletti perché si è permesso di far parlare Panzironi, chiudiamo la D'Urso perché si è permesso di, chiudiamo questa trasmissione perché magari ospita persone che sono sotto attacco, persone che sono condannate, eccetera, eccetera. Beh, voi siete sotto attacco perché domani sicuramente l'Agico mi manderà una lettera per questo. Sì, ma io voglio dire, nessuno di noi sta promuovendo i suoi cazzi di prodotti. Ma tu non hai diritto di promuovere. Cioè, lei non sta facendo la televendita, per fortuna, la sua televendita. Perché diciamola tutta, questo signore qui, che è un giornalista pubblicista e non è un giornalista che dovrebbe essere cacciato dall'ordine, fa le televendite ai suoi prodotti, ma quale informazione che promuovi quello che vendi tu? Ma è legittimo. Ma come ti permetti? Allora, fermo un attimo. Io parlo di un'altra cosa. Allora, Panzironi ha tutto il diritto non solo di dire quello che pensa. Panzana, chiamalo. Ma lascia perdere. Ma quello secondo te dice delle panzane? Secondo lui no. Promuove i suoi prodotti. Ma è legittimo promuovere i prodotti. È legittimo. Ma chi se ne frega dei giornalisti? Chi se ne frega? Non dica che è un giornalista scientifico. È un minchione. Non offendo, perché io non lo sto offendendo. No, ma scusi, anche rispetto del suo lavoro. Allora, Panzironi, la questione è molto semplice. È una questione che ha a che fare con la libertà di espressione. Quando si chiudono alcune emittenti, si chiudono in nome del Covid, si chiudono alcune emittenti perché Panzironi dice, magari commettendo qualche scivolone, qualche piccolo errore, non lo so, non mi interessa nemmeno. Il punto fondamentale, venga sanzionato per quelle cose. Ma quando si chiudono delle emittenti perché un signore come Panzironi e dice quello che pensa, dice che servono delle cose e promuove anche i suoi prodotti, chi se ne frega? Secondo me è uno sfregio alla libertà di espressione, quello che penso io. Chi se ne frega? Sì, certo, uno è libero di comprare una cosa o di non comprarla. Panzironi, ma stiamo scherzando, da informazioni sbagliate. Ma io mi occupo, che visto c'è casa salute, io mi occupo semplicemente di informazione. Poi che ci sia una televendita durante la trasmissione, ma quale informazione che vendi? Fallo parlare. E questo permette ovviamente di ripagare gli spazi televisivi. Vabbè, adesso quello lei fa un sacco di soldi, Panzironi, non è un mistero che lei ha fatto. Faccio l'imprenditore, ma reinvesto molto nei emittenti locali e questa azione terroristica metterà in difficoltà più di 50 emittenti regionali, perché se chiederanno la sospensione anche di quelle, avremo centinaia di famiglie che andranno sul lastrico. Lei pensi che il sindacato REA dei piccoli editori televisivi ha dichiarato che l'Agicom ha avuto degli atteggiamenti terroristici contro Panzironi? Cioè, secondo lei è vittima di una persecuzione? Beh, sono già 3 anni che mi vengono contro. Lei è un perseguitato sostanzialmente, si può dire? Io non sono perseguitato, però le devo dire che ci sono 1 milione di persone in Italia che sta seguendo questo stile di vita, ha risolto un sacco di cose e non c'è nessuno che si è mai lamentato. Non vedo perché quello che dico è un problema per la salute. Vabbè, qui sarebbe una cosa lunga. Lei sta dicendo sostanzialmente che con il Covid, scusami Adriano, adesso ti do del tu, mi stai dicendo che il Covid si può, uno può affrontarlo meglio seguendo prendendo la vitamina C e la vitamina D. No, io sto dicendo che se io ho un problema con un virus di qualsiasi tipo, nel momento in cui sono contagiato, se il mio sistema immunitario funziona meglio perché l'ho rafforzato con la vitamina C, vitamina D e un'alimentazione low carb, che tu vendi, diciamolo, che tu vendi, che tu vendi, diciamolo, questo diciamolo, però non nascondiamolo. Non è che la vendo io, la vendi anche tu. Sì, per carità, la libertà di poter di impresa, ma anche la libertà di poter acquistare qualsiasi prodotto in base al prezzo. Se ritiene opportuno compra Life, altrimenti compra qualche altro prodotto. L'importante però è far capire alle persone a casa, e questo è un articolo uscito 3 giorni fa, che chi è diabetico ha il 600% di maggior rischio di finire intendo ossigeno in prognosi infausta. Questo, ma tu dici che i carboidrati fanno male? Adesso questo non è provato oggettivamente, che i carboidrati fanno male per chi è malato di Covid, dai, questo assolutamente sì, è provato. L'ultimo articolo uscito pochi giorni fa dall'Università di Padova dimostra che le fluttuazioni glicemiche indotte da una glicemia non controllata, in questo caso il diabete, ma anche se voi mangiate un semplice piatto di pasta, può portare addirittura a un danneggiamento tale dei tessuti, aumento dei radicali liberi alla polmone eosinofila, che è dovuta poi cioè per te, Parenzo, sono tutte, per te sono tutte cazzate, secondo alcuni medici sono tutte cazzate. Io, allora, il fatto che uno che dice di essere un giornalista ma smarchetti ma i propri prodotti, questa roba già qua, ma che te ne frega, questo, ma che te ne frega questo. Dopodiché il marchettare in oggetto, il marchettare in oggetto fa finta di fare pure il medico. Non usi queste parole, perché io mi occupo di informazioni, ci sono centinaia di Ma quale informazione? Lei potrebbe avere ragione, sì, sicuramente è un conflitto di interesse, ma se questo conflitto di interesse avesse cagionato dei danni, lei ha un enorme conflitto di interessi e basterebbe questo per derubricare a cialtronaggine quello che lei fa ogni giorno. Ma che c'entra? Andate a chiedere a loro se quello che sta facendo, si devono affidare a un aspetta un attimo, Adriano, scusami un attimo. Allora, voglio capire se dei malati di Covid si sono rivolti a te negli ultimi giorni. No, questo no, però ci sono persone che hanno pubblicato. Hanno paura, no, in questi giorni voglio capire se dei tuoi diciamo, ecco, pazienti, tra virgolette, diciamo, no, delle persone che seguono la tua paziente, persone che seguono la tua dieta, diciamo, la tua, voglio capire se si sono rivolti a te per paura del Covid e tu li hai consigliati, sì, immagino. No, io non consiglio mai nessuno, io vabbè, non dai, adesso non tu, i tuoi, eccetera, non giriamo intorno alla cosa. Assolutamente, no, ma noi non parliamo di Covid, diciamo semplicemente. No, ho capito, però tu sei stato sospeso a causa delle cose per le cose che hai detto sul Covid, è certo. Questo non è che sei stato sospeso. Sì, però la trasmissione è stata tolta appena uscito 20 giorni fa, l'ha comunicato Santo. Ma meno male. Noi l'abbiamo tolta proprio per evitare di creare polemiche e loro lo stesso hanno sospeso alla pena un provvedimento politico, politico. Perché non vendi il provvedimento presuppone una multa che va, una sospensione va da un giorno a 6 mesi. Loro hanno applicato i 6 mesi. Vabbè, insomma, un provvedimento politico, dici tu, regionale né nazionale in Italia. La massima condanna è stata di 3 giorni. Un provvedimento politico, secondo te? È politico, se pensiamo che la direttrice generale praticamente lavora lo stesso studio di avvocati di Conte, è chiaro che le persone che vengono nominate all'interno che c'entra la nomina politica, che vuol dire? Gli altri organismi dello Stato è un organo terzo, ma che vuol dire? Scusi, certo che è una nomina che non la fa lo Spirito Santo. Aspetta un attimo, Panzironi, scusa un attimo, quali errori sono stati commessi fino adesso però dall'Italia nella gestione di questa vicenda del coronavirus? Secondo te quali errori? Ma che ne sa lui? Aspetta, sarà un osservatore come te e come me? No, dimmi, Panzironi. Sì, come Vanna Marchi, uguale, stesso valore. Gli errori fondamentalmente sono sempre come in tutte le patologie, noi dobbiamo pensare a una prevenzione primaria, cioè è chiaro che il virus bisogna fare la distanza, essere distanziati. Però dici tu, se oggi noi prendessimo vitamina C, vitamina D e non mangiassimo carboidrati, saremmo più preparati ad affrontare il coronavirus. Avremo minor rischio di prognosi infausta, cioè chiaramente te lo prendi, ma nel momento in cui hai un sistema immunitario che funziona meglio, probabilmente invece di avere un 20% di persone che finiscono tra i pententi, magari riduci a un 3%. Ma c'è uno studio interessantissimo sulla vitamina D che qualunque dietologo che laureato in medicina ti dice cose più articolate di questo. Ha una carenza di vitamina D, un'ipovitaminosi di vitamina D, no? Scusate, io voglio dire una cosa, questa roba qui che sta dicendo Panzironi, non so in che modo l'abbia detta nelle trasmissioni incriminate, secondo voi che state ascoltando, probabilmente l'ha detta così, secondo voi che state ascoltando, queste robe qui sono passibili se non per un provvedimento demagogico, io dico demagogico, di chiusura di un canale, dei suoi canali, della salute pubblica, ma quale tutela della salute pubblica? Allora spegniamo pure questa trasmissione, che vuol dire? No, perché qui c'è un contraddittorio, quello lui vende prodotti. No, chi è che non dovrebbe più parlare? Scusa? Sgarbi non dovrebbe più parlare. Esatto, Sgarbi. Tutti gli ideologi che hanno detto, voglio dire, Burioni all'inizio a Rai 1, a Rai 2 ha detto noi Covid non arriverà mai, state tranquilli, allora andrete così. Guarda, dai ragazzi, su, è una allora uno può con tutte le differenze del caso, con tutte le differenze del caso, è come Vanna Marchi, piccola differenza che Vanna Marchi faceva delle estorsioni ed era una criminale, lui quella vendeva il sale, lui va no, in televisione a promuovere, no, ho detto con tutte le differenze del caso che la signora è una aspetta Panzironi, aspetta un attimo, io posso dire con tutte le differenze con Inter, però lei Parenzo sbaglia, Italia, che c'entra Hitler con lei? Io non c'entro niente con la panna marca, scusi. E va in televisione a promuovere i suoi prodotti e fa il paramedico, invece è un paraculo. Io, fine. Paramedico, io do informazioni, cioè fa finta di fare, ma quali informazioni? Prese da dove? Da la Wikipedia le ha prese, no, da Wikipedia, lei, allora, perché questo della vita però, mira però, di scusate, fermi un attimo, allora la questione non è se Panzilloni è credibile o non è credibile, ovviamente lui che scrive queste cose e pubblicizza i suoi prodotti e fa quel suo mestiere, che è quello di divulgatore, diciamo così, è, per lui è credibile, e per una serie di persone che acquistano i suoi prodotti è credibile. Allora la questione ma che vuol dire? Ma voglio dire, è dannoso per la salute Panzilloni, sarebbe già al gabbio fosse dannoso per la salute, no? Ma no, dice delle minchiate. No, ma sarebbe già al gabbio. Non puoi tarpare la libertà di una persona di parlare, di dire la sua e di guadagnare, altrimenti è la dittatura. Se arriva alla dittatura, non è pericoloso per la salute pubblica. Ma tu inviteresti un santone? Ma se, ma quello fa i cazzi suoi in una televisione, che ti frega. Ci vuole la tutela del coglione. Io penso che il coglione vada tutelato, come le persone che compravano il sale dalla Vanna Marchi. Gli italiani sono coglioni, però. No, quelli che compravano il sale, da Vanna Marchi andavano tutelati. Fammi sentire Panzilloni. Risponda alla mia domanda: ma se un milione di persone, questo è stato anche certificato dalla Doxa, sì, un milione di persone seguono sì, la 120, hanno come ci sono sì, migliaia di testimonianze anche raccolte all'ero televisivo, che non addirittura abbiamo fatto insomma una statistica, e ci sono persone che tutti sono tutti coglioni, un milione di persone che si sono fatte certo, un milione di coglioni è verosimile, su 60 milioni di italiani è verosimile che ci sia un milione di coglioni che si fanno abbindolare da un signore che non è medico e non è Parenzo, io la stimo, magari a volte non sono io no, aspetta, io la stimo, io le posso dire che lei la prego, prima di attaccare qualsiasi altra persona, collega o no, si dovrebbe informare su io rimango sulla questione di principio, capisco quello che dice David, ma non sono d'accordo, cioè non sono d'accordo sul fatto che Panzilloni possa essere considerato un pericolo pubblico, un pericolo per questo paese, per la gente che si ammala, per chi deve salute, ma no, perché non dice seguendo le sue cose lui gioca su quel crinale ambiguo, gioca su quel punto ambiguo. Fammi sentire, io ho ammesso che io ho un conflitto di interessi, l'ho ammesso, ha detto ho un conflitto di interessi, qual è il problema? Qual è il problema? Io però questo conflitto di interessi lo utilizzo per far bene alla gente, questo ti rendi conto, per far bene alla gente, per diventare ricco tu, ma farlo in modo onesto, non prendendo per il culo le persone. Io posso diventare ricco nel momento in cui le persone che seguono sti dita non lo fanno un giorno, ma lo fanno per anni. Perché un investimento pubblicitario sta in piedi, voi mi insegnate, sono una televisione commerciale, se la pubblicità funziona. Radio, quindi se le persone iniziano uno stile di vita e per anni lo seguono, continuano a consumare l'integrazione, seguono uno stile di vita, e andate a vedervi voi le testimonianze, quelle che le Iene hanno messo in evidenza, sono state ascoltate dai carabinieri che hanno confermato esattamente quello che dicevano, le guarigioni che hanno portato. Allora, di fronte tu farai a ricorso, ovviamente, tu fai ricorso davanti a questa cosa qua, no? Cioè, io ho già fatto ricorso il 21 aprile, siamo davanti al TAR, il professor Tedeschini, e il professor Tedeschini ha detto allora, che non ha mai visto l'attacco del genere. La questione è molto semplice, sì, è proprio questa. Io mi dispiace, nel merito non entro nemmeno, perché non mi interessa in questo momento capire. Non è importante, sono sicuro che Panzilloni non è in questo momento non è un pericolo pubblico tale da essere oscurato. Scusami, non se è parla un pericolo di persone, pubblico, un milione di persone credono, ma non davvero, è che gli dice a quelle persone assumendo la vitamina D e bevendo della spremuta con la vitamina C, le persone lo dice la scienza, scienze scientifiche che hanno dimostrato. Allora lei vada a Palermo, stanno facendo una sperimentazione sulla vitamina C, lo stanno facendo a New York, l'hanno fatto a Wuhan. Ma lei non è un medico, lei è un marchettaro dei suoi prodotti, lei è un marchettaro dei suoi, quali informazioni? Lei dovrebbe essere primariamente cacciato dall'ordine dei giornalisti. Ma quello chi se ne frega? No, ma è inaccettabile che lui faccia le marchette ai suoi prodotti. Questo è assolutamente inaccettabile. Questo non ti compete, lei offende la sua intelligenza e la sua professionalità, perché se lei giudica senza conoscere. Allora io le manderò il mio libro. Hai paragonato a Vanna e Panzilone, a Vanna Marchi, scusami, detto, no, peggio, che ha una sentenza passata Marchi, in giudicato e hanno scontato Vanna anni Marchi, di galera. Ma ti spiego, dai, perché mentre la Vanna Marchi è un criminale accertato dalla magistratura perché ha commesso dei reati, l'unica cosa in comune che lui ha con la Vanna Marchi è che vende sogni, solo che i sogni della Marchi erano anche estorsivi, perché c'era pure l'estorsione quando gli vendeva il sale. Lui dice: se mi seguite la mia dieta, il magistrato ha archiviato la punta, rinviata a giudizio per abuso della professione medica, che ovviamente deriva al concetto che io parlo di cose che secondo qui la questione è la libertà. La questione è solo una: è la libertà. Se chiudono Panzironi, se chiudono Panzironi, devono chiudere decine e decine, solo che non hanno il coraggio di farlo. È chiaramente un provvedimento ad personam, è un provvedimento manifesto. Ma qui noi abbiamo manifesto discusso con lui. Aspetta. Un conto è metterlo in cattedra, è completamente diverso. Come fai a non capire? La cattedra, quando cioè, Giletti non deve essere lasciata perdere, di non stavo nulla, parlando di Giletti. Fatto il culo, non stavo parlando di Giletti, stavo parlando di un'altra cosa. Ci sono tanti canali internet, tanti canali online che hanno grande seguito, molto più dei canali tradizionali di informazione. Opinionisti eccetera, che parlano senza contraddittorio, come fa Panzironi nei suoi canali, diciamo, parla dei suoi prodotti o della sua dieta, eccetera, eccetera, e che non sono in qualche modo sanzionati perché dicono che c'è il 5G che ha provocato il COVID. Perché ci sono, è pieno di persone non vendono il kit anti 5G. Ma come fate a non capire la differenza? Io non vendo questo, ma è incredibile, Parenzo, io ho fatto fate a non capire la differenza, Parenzo, tra dire 20 giorni fa e ho detto lo Stato regali la vitamina C e vitamina D perché dobbiamo fortificare. Vabbè, però adesso indirettamente ci guadagni. Scusa, per chiudere, Adriano, una cosa è questa: voglio capire se la cifra che l'altra volta Giletti ha detto, che tu hai un fatturato di 20-24 milioni di euro, è vero o non è vero? Un patrimonio o un fatturato? Adesso non mi ricordo. No, è un fatturato, noi diamo lavoro a più di 100. No, ma tu hai un fatturato annuale di quanto? Nel 24 milioni di euro. Totale. Ne spendavamo 8 milioni nelle emittenti locali. Vabbè, restano un bel panno. Il marketing rientra in questo. Ma questi 8 milioni. Ma no, guarda che per me tu sei una persona che pensa di fare del bene, questo è il punto. Tu sei uno che dice: io penso di fare del bene, giusto? Ma è sufficiente andare sulle pagine. No, voglio capire. Io voglio capire. Io faccio del bene. Sono una persona che faccio del bene, giusto? Ma io faccio del bene perché permetto alle persone di diventare consapevoli della propria salute. Grazie, Adriano. Grazie. Mamma mia. Cioè, questo significa che ti piace qualcosa del nazismo, di quel signore con i baffetti. Ti piacerà qualcosa del signor Hitler o no? Mi piace ad un certo punto l'ordine, la disciplina, l'organizzazione che c'era in Germania. Mi piace che la Germania abbia difeso a un certo punto l'Europa. Sono in compagnia. Tu invece che fai le parmacchie, sei un cretino, quello di che fai le quello è il livello, di intelligenza di parecchio. Caro avvocato, mia nonna è stata in campo di concentramento, nel campo di Bergen-Belsen. I suoi parenti sono morti nel campo di concentramento. Ma scusa, io se la trovo allora le sputo in faccia. Se ti trovo per strada non ti tocco, ma ti sputo in faccia. Grazie, Io non capisco una cosa. Ti denuncio alla procura. Infame che non sei altro. Sei un cretino. Nazista schifoso. Ti sputo in faccia. Avvocato, ti sputo. Come si fa a dire che l'Olocausto schifoso non esiste? Ma perché? Schifoso. Come si fa a dire una cosa del genere? Schifoso. C'è la prova. Maledetto schifoso. Ci sono maledetto schifoso. Maledetto. Io ti denuncio alla procura. Mia nonna è stata in campo di concentramento. Maledetto. La telefonata sarà registrata per garantire la qualità, il decoro e la correttezza dell'organizzazione dei contenuti dei programmi di Radio 24. E voi sapete che io ho depositato nei giorni scorsi una denuncia. Cosa? Quando? che voglia di cazzo, mamma mia. Come Cruciani, dici che tu fai parte del popolo, che non ti piace l'elite, che stai con gli umili, con gli ultimi, e poi propongono la tassa sui ricchi e il culo ti brucia, perché non ci vuoi dare manco un quattrino, eh? Che devi fare? Te li devi portare tutti nella cassa da morto, sti soldi? Caccia è denaro, caccia, che la gente è in cassa integrazione, testa di cazzo! Chi caccia i soldi qua? Chi caccia i soldi? No, c'è il problema anche del budget! Certo, Davide, cioè, per realizzare quello che vorrebbe, che vuole Freccero, cioè queste, no, queste telecamere, no, in stile Apocalypse, ecco, eccolo là, ecco gli elicotteri. Ma quando ricapita, naturalmente ho provato a dirlo, mi hanno praticamente linciato. Ho detto, ma quando ricapita un'occasione simile, naturalmente, gente chiusa in casa, la paura, sì, naturalmente, beh, e il capito, racconto però della televisione, quando ricapita, naturalmente, no, cioè, per cui l'utilizzo anche di forze dell'ordine non è spreco di denaro pubblico, naturalmente. No, è al servizio della televisione, della società, di uno spettacolo. Chi de bang, de dai. Quando ritorna un'occasione così, la gente è costretta a stare a casa, a guardare naturalmente la televisione. E gli autori dei programmi che cosa fanno? Fanno parlare gli esperti. Sì, dai, noioso, dai. Ancora, come si fa il tampone? Almeno fallo vedere. Ma almeno io dico fallo vedere, naturalmente, sì, il tampone. Sì, fai vedere, dai, sì, non si almeno la telecamera dentro, mettendo la sonda dentro, poi magari succede un incidente in diretta che il tampone viene fatto male, la persona soffoca, sta male, devi far vedere la realtà. La gente deve vedere, naturalmente, il brivido. Vi siete mai chiesti come mai, naturalmente, i programmi di medicina degli Stati Uniti hanno questo grande successo, naturalmente, ve lo siete mai chiesti? Perché sono live, naturalmente, e quindi si lotta e lo spettatore dalla sua stanza, dal suo sofà, naturalmente, vive la stessa fibrillazione del medico che sta facendo un'operazione a cuore aperto, sai, naturalmente. È un po' dai, che è reale, sì, ma funziona però. Sì, perché sì, lo spettatore sicuro dirà, morirà o non morirà, allora rimani lì attaccato, naturalmente, okay, la pubblicità arriva, naturalmente, incasso, e poi dopo si ritorna, certo, live, naturalmente, e invece qui gli esperti, gli esperti. Ma che parlano senza vedere, ma che cos'è, la televisione si chiama, non è la radio, per cui dai, quei signori che scappano, dai, rincorsi dagli elicotteri, è pura adrenalina, bellissimo, è puro spettacolo, bellissimo, pura realtà. D'Urso. La realtà. L'elicottero della Guardia di Finanza che è proprio lì a fare cosa? A controllare. Ecco, Barbara. Allora, ecco, Barbara. L'elicottero ha segnalato quella persona sulla spiaggia. Barbara. Ma lui ha aumentato il passo e sta scappando. Quindi ora lo stiamo inseguendo. Non so se si può vedere. I finanzieri hanno iniziato a correre perché lui si sta allontanando tra le case. Eccolo lì. Vedi Barbara, sta. Sì, lo sto vedendo. Andrea inquadra e giù ci sono altri poliziotti che stanno bloccando altre persone. Beh, stupendo, ragazzi. Qualcuno, sai, io all'inizio ho pensato che fosse eccessivo pure io. Invece no, è straordinario, è tutto straordinario. Certo, c'è la questione della spesa pubblica, non c'è dubbio. Però dal punto di vista televisivo è meraviglioso, è stupendo. Tutti i moralismi adesso, bisogna 2000 euro, non so all'ora, costa questo giochetto alla Guardia di Finanza, non so quanto. Bisogna vedere, sì, magari sarebbero usciti lo stesso, sarebbero usciti lo stesso a fare dei controlli. Io sì, non lo so, sì, sarebbero usciti lo stesso, sì, e poi imbarcano le telecamere come fanno per tanti programmi, no? Tanti programmi in cui si imbarcano le telecamere a bordo di elicotteri, eccetera, eccetera. Posso dirti una cosa? Il moralismo che c'è su questa cosa, lo scandalo che c'è di fronte a questa cosa qua, è ridicolo, è ridicolo. ridicolo, è ridicolo. Beh, è ridicola la caccia all'uomo, è diversa la caccia all'uomo, è un po' ridicola di una sola persona. Ma il moralismo, i programmi televisivi che fanno la caccia all'uomo. Ma che serve? Ma ragazzi, dai, ma di che cazzo serve? Bisogna parlare? I virologi, come dici tu? I virologi ogni giorno, ogni seconda a scassarci i coglioni. Tanto ormai sappiamo più tutto. In Lombardia ormai il virus è incontrollabile. Diciamo la verità, non si può più controllare in Lombardia il virus. Beh, speriamo di no. Ma come? No, ci stanno calando, ci sono dati positivi. Sì, ma non oggi, si può più frenare, quello ormai circola. Poi, siccome stiamo tutti separati e tutti rintanati, circola poco, ma circola. La realtà è questa, dai. Andrea da Modena, dai, Andrea da Modena. Tu. Mario da Roma, vai. Mario. Ascolta, ma quel tipo de Palermo sul terrazzo, cioè sì, tu non lo puoi condannare così. Quello prima cosa aveva bevuto e quindi è normale che ha fatto un po' di casino. Che vuol dire, scusa? Non è che... dai, su. Io non dai. Sto condannando, ho detto semplicemente che ho detto rimortacci sua perché ci sono dei morti e tu, come dire, puoi anche esultare in privato, metterti a casa tua a fare... Vabbè, quello aveva sbeucchiato, dai, ma c'ha l'attenuante, ma che vuoi che sia. Ma io attenuante. Posso dire una cosa, vabbè, ok? Attenuante. Quando vedi vabbè arrivare, no, l'elicottero della polizia, con rotore, tutti quanti i poliziotti, le macchine lì sotto, no? Fatto cazzo, qui sicuramente sono andato a prendere Matteo Messina Denaro. Quello è vero, hanno scominato, la cupola del barbecue di Palermo. Non c'è dubbio, non dovrebbero vergognarsi. Beh, ho capito, però Matteo Messina Denaro, ma che c'entra? Un però po' quelle è vero, persone un po' è vero, hanno un fatto po' uno un sfregio po'. Sia tu, e noi chi siamo? Idioti che ce ne siamo stati a casa un po', invece. Un po' è vero. Sì, Parenzo, lei c'ha ragione. Ok, questo stava sul terrazzo. No, non ho capito. Okay. È la solita storia, no? Come con la famiglia. Ma scusa, perché tutti noi che siamo dupori stronzi che ce ne stiamo a casa, a noi ci piace stare a casa invece. Allora, e a noi invece ci piace stare a casa. E a noi invece ci piace stare a casa. Ho capito. Ma allora l'elicottero, tutta la polizia hanno sequestrato un po' di sedie, un tavolo e un barbecue. Andate a prendere con quelle cose Matteo Messina Denaro. E lo fanno, fanno pure quelli. Ci stanno gli elicotteri, ci stanno gli elicotteri. Sta pure quello, sta un rumore da elicottero. Mauro, provincia di Lecce, vai Mauro. Ma ciao. Dimmi. Come si fa a difendere Panzironi? No, attenzione. Come fai a difendere Panzironi? No. Lui dice fermo che mi incazzo, fermo. Cura il cancro e il diabete. Fermo, quella è un'altra questione, fermo, aspetta. Mauro, fermo un attimo. Allora, io non ho difeso quello che dice Panzironi, una cosa completamente diversa. Io ho detto, in questo non è che lui è stato sospeso perché ha detto che si cura il cancro, a parte che non mi ricordo quello che disse esattamente. Si cura il cancro attraverso 1, 2, 3, 4, 5, o il diabete attraverso 1, 2, 3, 4, 5. È stato sospeso perché si sostiene da parte di un'autorità che le informazioni che lui dà in questo momento possono essere interpretate dalla popolazione in maniera negativa su come bisogna guarire il coronavirus. È una follia, non è un pericolo pubblico, Panzironi. È un pericolo pubblico perché le persone non sono strutturate come te, coglione. No, vabbè, Mauro, certo, stai dicendo un'altra cosa. Non è stato sospeso per le cose che dici tu. Non lotta più, va bene. Parenzo non lotta più, è un radical chic, glielo dici pure tu. Beh, no, ha lottato come un leone fino a un secondo fa. Che cosa devo fare? Un fascista chic. Vabbè, un fascista chic. Vabbè, dimmi questo, chi se ne frega, sai, non se li sentite di peggio. Questo attaccato no, richiamatemi sto coglione, dai. Massimo da Bari, vai Massimo, dimmi. Pronto? Dimmi Massimo. Dai. No, quel cretino che parlava, che diceva che aveva il rimedio per il coronavirus, quello che ha finito 10 minuti fa. No, non ha detto che c'è il rimedio per il coronavirus. Panzironi, non ha detto questo, se proprio bisogna... Adesso mi fate passare come il difensore di Panzironi. Io non ho... No. Non ha detto che c'è rimedio per il coronavirus. Ovviamente tu l'hai interpretato in questo modo. E allora la paura di qualcuno che dice: oddio, Panzironi ha detto questo. La gente potrebbe prendere la vitamina C, la vitamina D come piovesse, e così sì, con tutti gli effetti collaterali del caso. Ma ragazzi, ma di che parliamo? Bisognerebbe chiudere tutto allora, perché ci sono delle informazioni, tra virgolette, false o verosimili, su tutti i canali internet che hanno molto più seguito dei canali di Panzironi, ma magari. Però i canali televisivi, Massimo, sono concessioni. Non ho capito che cosa vuoi tu, però. Non ho capito cosa vuoi. Volevo questo, semplicemente chiama e non dice un cazzo. Dire alla gente: chiama non e non ho cazzo troppo dire a quello lì. Chi? A quello lì, quello che diceva che aveva il rimedio. Poi un'altra cosa, se un'altra mi permette, cosa, sì, Barbara D'Urso. Meno male che non l'hanno mitragliato dall'elicottero a quel povero cristiano che stava sulla spiaggia. No, quello Meno male che non l'hanno mitragliato. Sembrava, sembrava. Allora, qui si fa audience. Qui per fare audience si fa di tutto. Come e di fosse più. Un delitto, naturalmente. Come fosse una cosa. Come fosse un. Come se gli altri in televisione pensassero, capito, ai grandi sistemi. Come pensassero. No, come se pensassero al popolo, alla salute, alla virtù pubblica. Ma non andate a cagare. Gli altri che pensano allora? Pensano all'audience esattamente come pensano D'Urso, come pensano qualcun altro. Gli altri che scrivono, che fanno? Che non vogliono avere successo? Cosa vuol dire? Ha fatto una cosa illegale? Si è affidata a un elicottero della Guardia di Finanza per fare spettacolo. Ci sono la Guardia di Finanza, attaccate la Guardia di Finanza, benissimo, attaccate la Guardia di Finanza che spende 2000 euro al minuto per andare a prendere una persona in spiaggia da sola, isolata, senza nessuno, benissimo, ma che c'entra la televisione? La televisione è la realtà, non lo dico sul serio. Voglio sperare, ma sarà sicuramente dai. Così che era già previsto quel volo della GDF. Giacomo da Palermo, sicuramente. Vai, Giacomo, avanti tutto, Giacomo. Pronto Giuseppe, dimmi, dimmi Giacomo. Ti volevo dire proprio a proposito di questo, della libertà dell'informazione, l'articolo 21 della Costituzione. Ancora, dimmi. Andiamo incontro proprio alla mancanza della tutela di questo diritto fondamentale. Io non lo so, se non credo, non credo che andiamo verso questo quello che dici tu, però sicuramente spero. Panziloni, quando un'autorità mi sospende dei canali in cui scrivendo potenzialmente ha diffuso idee potenzialmente suscettibili di porre in pericolo la salute degli utenti, io ho paura, non di Panziloni, ho paura di questa roba qui. Fermola. E c'è il rischio Fermola. Mi sono fatto ricoverare io in ospedale perché non riuscivo a capire cosa avevo. Il professor Zangrillo continua a dirmi tachipirinia, antibiotico, questo. Prendevo la tachipirinia da 39,7, scendeva a 39,4. Dopo due ore 39,7, per cui vivevo di tachipirinia, cioè era... Poi non so la gente che cazzo c'ha da lamentarsi di stare a casa. Oh, ti svegli al mattino, fai colazione, vai giù, fai palestra, ti masturbi, torni su, mangi, ti masturbi, guardi la televisione, poi a una certa ti masturbi, poi ti metti a giocare all'Xbox, ti masturbi, a una certa mangi, poi giochi ancora un po' all'Xbox, guardi Netflix, poi ti masturbi, vai a letto, per prendere sonno ti masturbi. Ti svegli il giorno dopo, fai colazione, ti masturbi, poi una certa mangi, poi ti masturbi, poi guardi un po' di cartoni animati, ti masturbi, vai giù a far palestra, torni su, ti fai la doccia, ti masturbi, mangi, guardi un po' di Netflix, ti masturbi, vai a letto e così ripeti, no? Quella che Conte chiama la riflessione. Su te stesso, sulla vita, lui parla di masturbazione. Dei colpi di mitraglia però sugli elicotteri, dov'è la corte dei colpi di mitraglia? Mauro, non ho capito che cazzo vuoi ancora. Cioè... Io non voglio un cazzo, non ho chiuso io il telefono, me l'avete chiuso voi. No, io coglione, non ho chiuso. Sei tu che mi hai detto che sono un coglione. No, ma tu sei un imbecille, vabbè, si sa. Chiuso, vabbè, che me frega, tu mi vuoi dire quello che vuoi. Sì, non ho capito che cosa vuoi. Do libertà di parola alle persone contestando quello che dicono. In questo caso. Io devo parlare tu. Sì, ma stai tranquillo. Qui di Mauro, da Messina una buona notizia. Il Tour de France si correrà dal 29 agosto al 20 settembre. Sembra parlare male del Sud. In Puglia, in Sicilia, in Calabria si stanno comportando tutti bene. Tu ma chi ha detto il contrario? Ma chi ha detto il contrario? Ma chi ha detto il contrario? Chi ha detto il contrario? Gaela e Fontana non hanno capito un cazzo. Ma l'ho detto! Tanto ti aiuta Parenzo con gli avvocati. Ma l'ho detto, liberati. Ma ragazzi, sì. Ma sono stato il primo un mese fa, 20 giorni fa, a dire che il problema dell'Italia è la Lombardia. Io non sono amico di nessuno, imbecille. Non sono amico di nessuno. Non sono amico di nessuno, testa di cazzo. Ah, vai a cagare. C'è un clima. Senti la musica, poi senti che roba. Allora, abbiamo con noi, perché ragazzi, i problemi di chi sta da solo. Sviluppa l'aggressività, sta trasmissione, sì. Sta musica, questa sì, roba, gli sì, elicotteri. Sì, allora, la realtà è questa. La realtà è questa, che in questo periodo, che in questo periodo ci sono molte persone che sono single a casa. Aiuto. E questa è la realtà, single a casa, maschi o donne. E poi ci sono persone che hanno una vita tra di loro, di coppia, drammatica, magari avevano storie, amanti, equilibri vari, che sono entrati in una situazione di crisi, sono costretti a convivere sotto lo stesso tetto, persone che non hanno voglia di farlo. Persone che erano lì per lasciarsi, persone che erano lì per rompere la loro relazione, persone che avevano ambedue magari storie sessuali con altre persone. E la situazione qui è drammatica. Abbiamo invitato qui la sessuologa Rosa Maria Spina, buonasera. Buonasera a tutti. Come andiamo? Bene, voi? Con questo accento calabrese verace, forte, che si sente, sì. Che non è calato nel tempo, non si è perso, abita a Roma, però non si è perso questo accento calabrese che ci piace. Non si può mai togliere una calabrese dalla Calabria, ovunque abiterà. Allora, che succede alle persone? Lei sta notando, immagino che ancora qualche visita, seppur virtuale, la faccia, no? Sì, io sto lavorando regolarmente in realtà, perché noi come operatori sanitari abbiamo in realtà l'obbligo di rimanere operativi. Dunque lei riceve in studio, non ho capito. Anche sia online studio. Che a studio. Studio con mascherina, distanza, sì, eccetera, sì, eccetera. Sì. Allora, sì. Dico una cosa, la masturbazione, no? La masturbazione capita a tutti, anche a chi è in coppia. A Parenzo capiterà, nonostante una vita sessuale regolare, lo testimoniano i figli, anche la frequenza dei figli, no? Diluita nel tempo, anche ristretta. Sì, anche se uno deve dire, non è che uno fa un tentativo e poi finito lì. No, cioè, per fare tre figli con la medesima persona, vabbè, devi avere... No, ma io lo dico in senso buono, devi avere una tua continuità sessuale. Ma io direi meno male che nonostante la vita di coppia la masturbazione continua. Ah, tu dici meno male. È un chiaro segno del fatto che la sessualità e lo sviluppo sessuale, che non termina mai in tutto l'arco di vita, procede correttamente, questo sia per gli uomini che per le donne. Allora diciamo solo evviva, no, viva, io dico diciamo. Una cosa, cioè nel senso, Parenzo, tu stai dicendo che nonostante la tua vita sessuale regolare di coppia con una persona, no, tu ogni tanto la pippa ci scappa, se signora, no, per dire, per essere se chiari. Se la signora fa statistica, adesso qui potremmo andare su molte un altro coppie piano. Masturbarsi è meglio, cioè alimenta l'attività sessuale della coppia, Rosamaria, no? È salutare, perché comunque mantiene attivi appunto sessualmente. Noi non dobbiamo pensare che la sessualità sia solo quella di coppia. La sessualità è anche quella dell'autoerotismo, no, quella in cui d'accordo. Si abbandona delle fantasie. Ma nella coppia, nella coppia è, diciamo, tu come sessuologa spingi ogni tanto le persone a dire vabbè, ma masturbatevi anche, cioè anche se no. Certo, non c'è nulla di male, anzi. Non siamo più ai tempi di Freud, secondo cui la masturbazione era una fase immatura della vita sessuale. Al contrario, oggi sappiamo che la sessualità è sana sia per gli uomini che per le donne. È giusto che uomini e donne abbiano il proprio spazio, la propria intimità, indipendentemente dal partner, e si possano concedere degli spazi di autoerotismo. E questo diciamo dal punto di vista generale. Però in questo periodo in particolare sto notando che c'è un'attività masturbatoria in corso, che è sicuramente come si fa a notare? Te lo dice lei, per esempio, notando. Una statistica, la signora Spina ha dei pazienti e dunque ha sotto mano anche dei dati o comunque della sua esperienza, si sta notando un aumento dell'attività masturbatoria. Ora, lo dicono i fatti, ora può provocare dei danni questa roba qua dal punto di vista anche fisico, cioè nell'organo sessuale maschile può provocare delle situazioni sensazioni anche di dolore, di lacerazioni, di, cioè un'attività masturbatoria di un certo tipo, oltre che dal punto di vista psicologico naturalmente, o no? Allora, in realtà dipende da come viene portata avanti e da come viene effettuata la masturbazione. Molto spesso, diciamo, se è un po' troppo sostenuta o se è associata anche ad oggetti che vengono utilizzati per la masturbazione, allora si possono avere anche dei danni fisici. Ma il maschio no, però. Io sto parlando del maschio, naturalmente, in questo caso. Sì, no, nell'uomo, diciamo, perché anche nella donna dipende anche lì. Cioè, non è che esistono solo strumenti per l'autoerotismo femminile, esistono anche degli oggetti per l'autoerotismo maschile. Sì, però in questo periodo diciamo che le persone, lei ha notato anche che c'è una richiesta di queste cose qua da parte delle singole persone, addirittura maschi che si fanno aiutare da qualche oggetto. In realtà c'è un forte incremento nella vendita dei sex toys online, perché molto spesso la sola masturbazione effettuata, diciamo, in modo tradizionale la come pugnetta, la conosciamo noi, la pugnetta, non diciamo. Basta, esatto, e l'uomo che fa? Così. E l'uomo che fa? Chiamiamola così, vedi, dice la signora, la dottoressa. E l'uomo che fa? Così, come si aiuta? Convenzionalmente. Come si aiuta? Esistono degli strumenti che vanno a simulare parti del corpo femminile. Quello lo sappiamo. Simulano la bocca, esatto. Ah. E quindi anche questi, se utilizzati in modo scorretto, possono creare delle lesioni. Invece la classica masturbazione con la mano può essere uno che si fa due pippe al giorno. Adesso andiamo sul concreto un po', così la gente ci capisce. È una cosa eccessiva, secondo lei, in questo periodo? Ha delle testimonianze? Allora, in realtà non possiamo parlare di dati numerici, perché teoricamente, ora la butto lì, anche 10 atti di autoerotismo al giorno potrebbero essere normali. Addirittura? Ma sì, il punto non è quello fisico in sé, ma è l'aspetto psicologico. Cioè? Io lo faccio perché non ne posso fare a meno, perché è una cosa più forte di me o perché mi va di farlo. No, perché è magari c'è qualcuno che ti stimola a farlo, dico io. Cioè, però il problema è questo, può provocare dei danni due al giorno in questo periodo in cui c'è anche uno stress? No, questo no. Fisicamente non provoca danni. Ah. Ovviamente se fatto con le dovute cautele, perché ripeto... È ovvio, se la modalità di stimolazione è troppo sostenuta, se vengono utilizzati oggetti che non sono appropriati, in quel caso i danni fisici ci possono essere. Ecco, io voglio dire una cosa, per esempio il ritenere lo sperma, già ne abbiamo parlato più di una volta, e la ritenzione, cioè non venire... è una cosa negativa, perché io, come si sa, ho detto qualche volta nel passato che per un periodo anche lungo mi masturbavo, ma senza la conclusione, diciamo. Non so perché, per motivi così, per la conservazione biologica, non lo so. In realtà ci sono alcune culture che volutamente dicono di non disperdere il seme, perché è come se si disperdesse la forza fisica dell'uomo, e quindi sono a favore dell'eiaculazione ritardata o addirittura proprio dell'eiaculazione in qualche modo proprio però bloccata. Però può fare male. In questo caso sì, può fare male, perché l'uomo proprio biologicamente, fisiologicamente, dunque, lei il consiglio, esatto, ha bisogno in qualche modo di esplodere di liquido seminale. Allora, diciamo una cosa molto chiara, dottoressa Spina, consigliamo in questo periodo alle persone che sono sole a casa, potete arrivare a un massimo di quanto? Due? No, non c'è un massimo e non c'è un minimo. La cosa fondamentale l'altro giorno Max Felicitas ha detto che se fa 4 seghe al giorno, 4. Chi può dire che 4 siano troppe? Cioè, noi siamo troppo legati a degli stereotipi, a dei concetti di normalità, che però chi dice cosa è normale e cosa no? No, ma questo è vero. Senti, lei che esperienza? Lo so, pure io mi sembra assurdo, 4. No, ma mi sembra pazzesco, tutto quello che c'è da fare, da leggere La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Foglio, voglio dire, scusi, dottoressa Spina, invece lei invece riceve pazienti che hanno problemi di coppia e che in questo momento sono drammaticamente rinchiusi in casa e non sanno come fare, che cosa le raccontano? Sì, diciamo che per le coppie in crisi questo è un momento drammatico, perché comunque passare insieme tutto questo tempo e cercare in qualche modo di dividere il tempo e lo spazio non è facile, soprattutto perché, come dicevate voi prima, quando la coppia è in crisi, prima di arrivare alla rottura vera e propria, è facile che si sia creata delle vite parallele, e adesso? Queste vite parallele sono messe in stand-by. E adesso come che cosa ti hanno raccontato, per esempio? cose per alcune persone in questo periodo? Beh, a me per esempio è capitato di un paziente che ha comprato un cane. No, non ci credo. Sì, sì, sì, ma vabbè, una storia assurdissima, perché tra l'altro un cane di razza, quindi una cosa ancora più assurda, e alla moglie ha raccontato di averlo trovato per strada abbandonato e di esserci dispiaciuto ad averlo visto lì, quindi di averlo preso e portato a casa. Con questa scusa, avendo ora il cane da portare fuori, riesce a incontrare l'amante che abita nel suo stesso circondario. Ma ti rendi conto o no? Cioè, questi... L'ingegno italico, l'ingegno italico. E poi? Esatto. E poi? E poi? E lei cosa ha suggerito a questo signore simpatico? Questo di farsi simpatico... gli affari, di fare quello che vuole, immagino. Non è che sta lì a reprimere moralmente le persone. Ma... No, reprimere moralmente, ma figuriamoci. Ma un altro paziente, ci racconti un'altra cosa? Beh, un altro paziente, per esempio, che abita in una casa con degli spazi un po' più ridotti, insomma, quindi ci sono anche delle difficoltà fisiche con la moglie, per esempio si è inventato che per lui è necessario, visto il periodo di inattività a cui è obbligato, stando così troppo tempo in casa, stando seduto, che suda molto, di aver bisogno di fare frequenti gocce. In realtà è solamente una scusa per potersi chiudere in bagno, non per masturbarsi, specifichiamolo, così spoileriamo subito, magari. Ma semplicemente per stare lontano dalla moglie, perché è l'unico momento, quello della doccia, in cui la moglie, tra virgolette, non gli rompe le scatole. Comunque posso dirti una cosa? Ad avere del tempo per sé. E anche magari poi alla fine non te l'ha detto, ma sicuramente sotto la doccia. E poi magari qualcosa ci scappa. Allora, voglio chiudere con questa cosa, che effettivamente io una roba di gomma con la bocca da una parte e dall'altra alla figa ce l'ho anch'io, una specie di attrezzo. Non l'ho mai usato, me l'hanno regalato. Non metterei mai il mio pene, il mio uccello dentro una roba di plastica. Ma perché a me non lo regalano, secondo te? Perché a me non lo regalano? C'è il pericolo, c'è il pericolo in questo periodo, per concludere, la dottoressa Spina, c'è il pericolo di una dipendenza da masturbazione, di diventare alla fine di questa, di questo lockdown, uno diventa dipendente dalla masturbazione o no? Beh, allora il pericolo c'è, ma il pericolo c'è sempre, soprattutto poi in questo periodo, perché se c'è comunque una limitazione della propria vita sessuale, non c'è dubbio. È ovvio che qualche soluzione va trovata. Allora, e un mio amico mi dice: le soluzioni non sono proprio quelle ottimali. Un mio amico mi dice: mi sono fatto una sega proprio ieri mentre la mia compagna lavorava di là in call. Fermi tutti, grazie dottoressa Spina, un abbraccio. Che porcheria. Grazie a voi, buona serata. Ciao. Qua la situazione è grave, cioè più passano i giorni, più l'ormone è fuori controllo, cioè ormai viene duro pure guardare le giornaliste di La 7. Mamma mia, come si fa? Come si fa? Caro Davide, è arrivato il momento naturalmente di chi? È arrivato il momento. Cosa può accadere ancora? Cosa può accadere È arrivato il momento. Intanto sentiamo gli audio, vediamo cosa ha detto, perché aveva detto che il 14 usciva di casa l'ingegner, ovviamente il nostro ingegnere preferito, l'ingegner Carlo Negri. Partiamo con gli audio. Partiamo con gli audio. Hanno voluto vedere cosa succedeva eliminando dei valori sempiterni, dei valori nati con l'uomo, libertà e democrazia. Hanno voluto sperimentare cosa sarebbe successo se era possibile eliminarli. Perché addirittura ci sono dei premier che prima erano contrari alle misure, poi si ammalano, poi immediatamente guariscono. Ci sono poi tutti quelli nell'ambito della politica, del giornalismo, che prendono questo contagio e guariscono subito, che addirittura la sera fanno lo show in TV. Tutti i grandi sono guariti, tutti. Non possiamo più chiudere il nostro paese, anche perché le misure negli altri paesi erano molto meno restrittive, mentre noi ci siamo ispirati alla dittatura cinese. Arriviamo al punto che la Costituzione non vale più niente, non ha più nessun valore, viene messa sotto l'azzurbino. L'Italia non vale più niente, non ha più l'Italia un diritto. Li metteranno come vorranno, se c'è qualcuno che vorranno portare via, lo porteranno via dicendo che c'è un tampone positivo, quindi lo porteranno nei reparti in cui ci sono altri malati, prenderà il contagio vero e poi morirà, morirà. Questa è la realtà, oppure se si tratta di un bambino lo rapiranno, lo porteranno via, lo sradicheranno con la scusa che è infetto, lo daranno ad un'altra famiglia. La deportazione. A questo arriveremo. Arriveremo alla deportazione. Con gli immigrati zero polizia, con gli anziani il carcere. Mamma le tesi dell'ingegner Carlo le Negri. Le follie, perché le tesi? Le follie. Uno spiegamento di forze senza precedenti. Prima noi eravamo preda di immigrati, trattati, scippati, le nostre case, arrivavano i delinquenti, ci portavano via tutto, le macchine rubate, andavamo dalle signore forze dell'ordine. Oh, noi siamo sotto organico, non possiamo fare niente, non ci abbiamo neanche la benzina per poter girare, tutti dentro, non si vedeva mai nessuno, adesso tutti fuori in assetto di guerra per fermare un anziano, si mettono quattro pattuglie e rincorrono un anziano che è andato a comprare la birra, lo sanzionano con 280 euro. Direi di chiamarlo, che dici? Tu non vorrei, non vorresti è necessario? Chiamarlo. Io ho sviluppato una sorta di attrazione per questo ingegnere, perché in fondo poi perversa, sicuramente perversa, come sono una persona perversa io, come sai, ho della perversione nel mio animo, sono perversa non necessariamente in senso negativo, dipende dai settori comunque, no, della perversione. Però in questo caso per il signor Negri ho sviluppato un'attrazione bestiale, ha delle cose che, delle cose che condivido anche. Ma sì, alla fine più passano i giorni, più mi sposto sulle posizioni di Negri, non sulle posizioni di Negri, no, non sulle cose dell'eliminazione della libertà, la democrazia, per carità, no. Però sul fatto che questi qua è un mese e mezzo che ci dicono dentro casa e non ci viene prospettato un cazzo di alternativa. Sì, su questo sì, cazzo. Sì, si parla di tante cose, non ce n'è una chiara. Dai, su, in altri paesi si fanno già degli scadenzari, si avviano screening di massa. Certo, se non fanno i tamponi, amico caro, bisogna fare i tamponi a tutti, le app, a rintracciare le persone. Ma lo diciamo dall'inizio, Sì, pronto? Pronto, ingegnere? Sì. Come andiamo, ingegnere? Io sono sempre più dalla sua parte, non so perché, mi sto spostando. Sì, andiamo bene, dobbiamo diffondere questi dati, dobbiamo diffondere i dati che il 63% dei deceduti, di quei 20.000, sì, ha tre o più patologie. Di fronte alla gente che ci dice ci sono i morti, dobbiamo andare a spiegare di cosa sono morti, che non sono morti direttamente per coronavirus, ma avevano quattro. Scusi, ingegnere, si tolga l'auricolare o via voce, se no non sentiamo un cazzo. Dov'è lei? Dove si trova? Sono seduto, sono qui. Ah, dice che usciva, il 14 esco, il 14 esco? No, sono uscito, ma non è che posso stare tutto il giorno fuori, no? Sono andato a fare una passeggiata, oggi la passeggiata è la cosa più pericolosa, è più, la missione che facevano i militari in Afghanistan era molto... molto meno pericolosa della passeggiata, perché ti incontri le quindi forze dell'ordine, ed anche, è andato dallo psicologo. Abbiamo le forze dell'ordine, dette anche gli angeli della Meloni, che continuamente ti fermano. Infatti domenica sono stato fermato, il giorno di Pasqua sono stato fermato dagli angeli della Meloni, era circa, diciamo, circa le due, hanno voluto vedere il documento, ero in prossimità, della mia abitazione, perché non vogliono capire che prossimità non può essere prossimità di una farmacia, no, prossimità della mia abitazione, di una farmacia, per comprarsi un antidepressivo, per comprarsi un antidepressivo. Ma non c'è bisogno dell'antidepressivo, lo prende lei l'antidepressivo. Scusi, è uno schizoide, lei è un qualificabile come una persona che direttamente fa le riverenze al potere. Lei è un servo del potere. Ma hai fatto disobbedienza? Lei fa parte del canale unico dominante. Hai fatto un po' di, hai fatto, io non ho bisogno delle farmacie. Ingegnere, hai fatto un po' di disobbedienza civile? L'hai fatto o no? Perché tu ma hai detto. Non è, ma il discorso è questo. Hai detto esco. Noi e poi siamo, ma quale disobbedienza? Noi siamo in un paese dove c'è la dittatura, un paese che era la culla del diritto, invece un paese dove ognuno fa quello che vuole, praticamente ci sono i ciambellani, voi fate parte della voce del padrone. Beh, adesso non esageriamo, i ciambellani del potere, fate le riverenze, perché voi siete incapaci di criticare tutto quello che viene dal potere, perché è possibile che sia tutto positivo? Ma tutto chi l'ha positivo? Detto? Io sono incazzato come una bestia, sono incazzato ma più di lei, non c'è niente di negativo. Se lei pensa che queste leggi qui siano illegittime, se lei pensa che siano come dice lei, un sequestro di persona, se pensa che ci stanno mettendo tutti dentro una grande caserma, deve fare una grande operazione di disobbedienza civile, non fare le piccole passeggiatine intorno a casa. Ma non è che io faccio, ma passeggiatine. Guardi, noi, ma secondo lei Gandhi ha sconfitto gli inglesi facendo le passeggiatine? È un grande esperimento. Allora c'è in questo momento un grande esperimento per vedere se i popoli sono disposti a rinunciare alla libertà. Allora, gli altri popoli si stanno muovendo, in generale si stanno protestando, stanno protestando tutti insieme, mentre il popolo italiano dimostra di essere il popolo più servo del mondo, perché noi abbiamo della gente che addirittura quando esci, stai fuori, va a telefonare alla polizia, chiama la polizia, è un popolo che è diventato anche infame, perché i sindaci stanno dicendo alla popolazione telefonate se uno sta fuori. Ma stiamo scherzando? Ma lei non ha paura? Ma lei non ha paura del coronavirus o no? Milioni di morti ci sono stati per difendere la libertà. Allora la libertà non allora può esca, faccia calpestata in questo modo, non può essere la libertà. Lo vuol capire che noi non possiamo essere rinchiusi dentro casa senza una proporzionalità. Scusi, c'è una proporzionalità. La pillola dopo pranzo doveva prendere. Doveva prendere la pillola totali, dopo pranzo. Totali di morti sono 500 totali. Vada a vedere. Non possiamo essere chiusi dentro casa. Non c'è la peste nera. Faccia una grande operazione come fece Gandhi, come fecero i Bonzi. Si dia fuoco in mezzo alla piazza. Ma voi vi dovete dar fuoco, perché veramente se voi io sono solo incazzato, fuoco, basta. Noi avremo veramente l'esempio che finalmente il canale unico dominante sta in questo modo perdendo terreno. Però io sono voi dovete darvi io fuoco. Sono dalla sua perché parte. Voi siete la voce del padrone. Aridaglia con sti padroni. Cioè, il discorso è questo. Voi non potete mettere a tacere le voci che sono discordanti. Ingegnere, no, cioè, noi abbiamo tacere, parla in continuazione qui. Ci sono degli argomenti. Ma qui la chiama ogni giorno Cogiani. L'Istituto Ingegnere. Superiore di Sanità Ingegnere. Afferma che il 73% a 3 o 4 patologie. E allora esca tutti i giorni, si faccia arrestare, ma faccia qualcosa. Ma allora io voglio sapere, quella gente lì che è morta, come è morta? Ma quella gente lì che è morta, come è morta? Si permette? Come si permette, dice Parenzo? Come ma si come permette? Si permette di dire quella che gente lì che è morta? Ma noi possiamo permetterci quello che vogliamo, ma voi pensate che... Ma che cazzo di ingegnere è lei? Ma come si permette? Questi criminali ci hanno portato dentro casa, ci tengono chiusi, che uno non può permettersi di dire quello che vuole. E allora, esca, ma non rompa i coglioni. Esca, ma non rompa i coglioni. Basta. Ma è possibile che gli scemi di guerra ancora devono andare? Scusi, ingegnere, ma chi è che vogliono sequestrare? Lei ha detto che... Ma chi è quello scemo lì che va girando? Parenzo, quello scemo di guerra? C'è ancora uno scemo di guerra in giro? Ma come ti permette? Ingegnere, gliel'ho già detto altre volte. Un cretino di quel tipo! Ingegnere, lei deve prendere la pillola due volte al giorno, perché è rincoglionito! La prenda lei, la pillola, lei prenda il cianuro, questo così, se la smette, questo è brutto. Di stare a trasmettere continuamente questi messaggi. Scusi, ingegnere, ma... portano gli italiani a essere imbambolati. Arrivederci, ingegnere, arrivederci, grazie. Buongiorno. Arrivederci. Beccate quello! Beccate quello sulla spiaggia! Eccolo lì! Beccatelo, mitragliata! Allora, sai che in Olanda, lo dice un tuo amico, il signor De Rita, cioè il professor Giuseppe De Rita, in Olanda... Sì, degli anziani, sì, ho visto. Ti leggo questa cosa qua. L'ho visto. Che vive lì gli avrebbe raccontato, ma sarà vero. Gli over 70 hanno ricevuto un bel modulo in cui si impegnano, in caso di coronavirus, a non ricoverarsi in ospedale per non sottrarre posti a chi ha più possibilità di guarire. Il bello è che lo hanno firmato tutti. È incredibile. La mentalità lì è meno comunitaria, c'è una forte dimensione di autonomia, di prestigio dell'individualità. Quasi un esempio di coscienza pubblica. Sono vecchio, se mi ammalo cerco di farcela da solo, ma non tolgo spazi ai più giovani. E qui poi l'intervistatore gli chiede: scompare un'intera generazione. Gli anziani morti avevano alle spalle, in media, in Italia, almeno 2 o 3 malattie pregresse. Vabbè, eccetera, eccetera. Pietro da Milano, vai Pietro, dimmi. È incredibile. E vabbè, ragazzi, però è così. Cinico, terribile. Pronto. Sì, ciao, senti, ho sentito prima che rispondeva. Ok, la cosa più bella, quello di Palermo, scusami Pietro, la cosa più bella da Palermo, quello della terrazza lì, è che poi quelli là appena sono arrivati i carabinieri con gli elicotteri, hanno tirato i fuochi d'artificio, hanno cercato in qualche modo di sfidare i carabinieri. Pazzesco. Pietro, dai. Niente, dicevo, ho sentito prima che rispondeva l'ascoltatrice, se non sbaglio Paola, e gli dicevi che potevi trovare un po' di erba, di marijuana. Ho detto, ho detto in provincia di Vicenza, ha chiamato una prima che dice che aveva bisogno di erba, di marijuana, ho detto un po' per liquidarla, diciamo, vediamo se ti posso trovare qualcuno là vicino per procurarti pure qualcosa. Pure lo spacciatore fa adesso, spacciatore, tutto fa. Ma ho scritto anche un mio amico in abuso, io sono ridotto male, ho trovato dei semi di 10 anni fa, ho provato a piantare, non cresce più cazzo. Mio, però avevi spacciatore, evidentemente. Qui ogni giorno riceviamo telefonate di gente che dice: ci incontriamo al supermercato, lo incontro per strada, passa sotto casa facendo finta di andare a fare la spesa. Evidentemente eri rifornito male. Guarda, onestamente ho sentito, ma mi sembrano tutte, possono dare qualche numero sulla pagina Facebook. Non capiamo, ma dove li compravi tu? Dove compravi la tua marijuana, le tue canne? Dove le acquistavi, diciamo? Avevo il mio giro, ma non era qua vicino. Adesso siamo tutti fermi, quindi diventa un po' difficoltoso, un po' per tutti. Amico mio, fai qualche telefonata, qualche giro e fai in modo di fatti arrivare. Ma ragazzi, non sono io a doverlo dire, ma mi pare abbastanza chiaro. Il nostro Salvatore Crux, ma io non faccio lo spacciatore pure di nessuno, perché non ho mai la speranza è che sia il THC a salvare tutti dal COVID. La mia guarda che incredibile, che il vaccino venga da THC. Ma non credo proprio, guarda. Ma speriamo, è una speranza. Chi è che diceva che faceva meglio, che faceva bene alle cose respiratorie, quello deputato ex grillino, no? Ti ricordi? Fermo là, Roberto da Treviso, fermi tutti, Roberto da Treviso, fermo. Roberto, dimmi. Pronto? Dimmi Robè, dimmi, veloce. Eccomi qua. Vai. Allora, come avevo annunciato alla tua signorina, volevo dare una mia... La signorina di Conte, ma ci ha rotti con il Conte, non ce ne frega un cazzo. Io dico solo una cosa, fermi un attimo. Sono rotto lì con Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Matteo!